Sì. Chi c'è il suo cavallo 10? Yeah. Ciao Claudio. E beh. Oi, e beh. E te. Buttato te sempre fila. Lei mi si è tornato la foto. Sono senza brazzi. Una fatica in tre eravamo, una fatica allucinante. Perché? Cos'è combinato? E la vuoi portati? Ah, visto l'abbiamo chiusa. Ma perché l'hai chiusa? Per il pericolo? Chito, cosa? Ma chiusa? Tu, sei donata. All'anno che vieni. All'anno che vieni. Ma l'avete svuotata allora? No, è piena. È piena. Rimane piena. No, rimane piena, no, non le fa niente. Quando la apri, attacchi i motori, metti la pastiglia del cloro, controlli il pH, faccia lì il pH, c'è un trattamento, no, appena la scoperchi. Almeno di 3-4 giorni e poi puoi farti il bagno. Ah, ho capito. Andava, insomma, anche quella è abbastanza laboriosa la questione. Andava bene, bene. Ti sei stancato? È grande qualche no. È grande, però eravamo in tre e poi ci sono tutti i gomoncini così chiamati che si riempiono d'acqua per mettere ai bordi del telone per non volare, capito? Quindi sono andato una pompa in mano a riempire questi gomoncini. Vabbè, comunque se è chiusa almeno non rompe più le scatole. Quello già è vero. E vabbè, fatto, non se ne parla più. Sì, che adesso la riaprite alla pulsione d'estate praticamente. Sì, sì, basta. No. Adesso deve essere questo mese un relax totale, anche perché poi io dal 14 me ne vado una settimana ad Alghero, quindi. Perciò tutto il prossimo anno adesso. Ok. Vabbè, anche quello voleva fare, evidentemente. Anda, e che ci vuoi fare? Sono io. Sembra che uno non abbia mai niente da fare, invece quando uno ha più tempo hai più da fare il territorio. Sono andato manco niente. Nulla, perché io eravamo a Sassari e dovevo portare appunto il cane, quindi siamo andati qua. Tanto alle 9, cioè io ho trovato che erano più delle 2. Più delle 2, perché te l'ho detto, poi avevano tolto i cosi, i teloni dei gazebi, tutto. Conservate tutte le sdraie, tutto conservato, tutto messo a posto nel suo ripostiglio. No, esce no, il sistema maestrale, i cosi, poi c'è il freschetto la sera, no? Non fa, capito, basta così, già va bene. Beh certo, praticamente è stato fatto un telone a misura di vasca. Quello, tutto intero, quello è pesante anche. Quello è un telone per piscina, è stato pagato alla Tecno Piscina Sarda a Predagneda 1 milione, cioè 1.500 euro, anzi per l'esattezza 1.450. È fatto apposta, e c'ha i suoi gommoncini, tu una volta che lo stendi, però ci vuole due persone a una parte, due persone all'altra, però eravamo in tre, va bene lo stesso, e poi ti danno in dotazione i gommoncini, no? Che sono non altro che dei braccioli di gomma da 2 metri, ce n'è anche da 3, tu li devi riempire e posizionare una volta che hai posizionato il telone, che è bello, non lo devi mettere in diga il telone, perché sennò quando piove si riempie l'acqua e ti trascina e te lo trascina, ti porta via i gomoncini, se no lo devi appoggiare a filo d'acqua, ok, e poi posizionare con i gomoncini. Siccome è celeste, si vede poco, è dello stesso colore della piscina. Capite? 1.450 euro è costato il quartello. Capite? Non è poco. Vabbè. Va messo tutto sopra il filo dell'acqua, l'ho messo. In modo che poi lo faccia pancia. Così è. quando si riempie l'acqua, perché quello si riempie l'acqua, ma c'è sempre la possibilità che si possa riempire lì, ma c'è qualche cosa per farlo poi defluire, per far defluire l'acqua quando cade sul talone? No, anzi, non le fa niente, l'acqua piovana non le fa niente. È un telone a parte, sì, ci sono delle canalizzazioni con dei bocchettoni sui quattro angoli che le fluiscono fuori. No, sono fatte apposta, sono teloni per piscina, addirittura ci sono gli elastici per legarla, ma non va bene così, non va bene. È meglio, come ha detto quello della Tecnopiscina, praticamente appoggiare il telone all'acqua in modo che non faccia pancia e poi metterle in tutti i bordi, perché i bordi escono 1,20 m, 1,50 m fuori, è molto più grande se lo danno, per mettere proprio i gommoncini in giro, capito? Ho capito, in modo che faccia da sostegno, perché quando si riempie l'acqua magari peserebbe e andrebbe ad abbassarsi e dunque fuori escono dal bordo. Invece con questi gommoncini che sono pieni d'acqua appesantisce e mantiene sempre il telo sempre bene, un bello tirato, ritira, no? E si conferma, sì. È proprio esattamente così. E quindi abbiamo fatto quello stamattina, poi mi ha voluto togliere i cosi dei gazebi, sono due gazebi, per il vento, per non rompersi, tutto piegato, basta così. Ebba non venne a tagliare, ma attenzione non venne a lavare, la piscina è serrata, allora bisogna andare solo a mangiare e a russì. Dopo tanto lavoro, almeno quello, non ci mancherebbe. Vabbè, mi sento lo stesso durante l'estate, ho temuto il caldo. Cosa? Durante l'estate non hai arrossito lo stesso, sempre quello. Ho temuto il caldo. No, già si è arrossito. Ma adesso la prossima settimana facciamo con un po' di miei amici una bella rossita, noi siamo più liberi. Donne non ce n'è e quindi va bene così, solo maschi, e ti da campo dal mercato dove si trova sardine, facciamo un po' di pesce arrosto, tre carne arrosto, e io almeno è fatta, finché l'altro giorno che ho fatto quel maestrale, mi ha chiamato, sono andato, ma guarda, cosa vera, c'è quest'altro un'ora con lo gambaraggio bucando in voce. Già lo credo, lì quando tira, in alto momento, in quella zona, qui il vento, caspita, se in città è a 100, lì è a 150, di alluvio, non c'è che ci siano le muri che riparano, perché il risultato è che è una aperta campagna praticamente, no? Su, c'ho la foto che ti posso anche mandare, proprio del ripetitore, è proprio su in alto, in alto, si vede tutto Sassari, Ogero, tutto Sennoli, tutti i paesi. No, ma poi adesso le smonto anche il motore, glielo tolgo e lo conservo il motore a piscina, non lo lascio stare attaccato, capito? Dopo poco chi mi entra e si ti buttano in tutto. Quel motore costa, l'impianto di quella piscina costa più di 4.000 euro, non le bocce che giocano. Quindi il motore lo tolgo, lascio solo i bocchettoni, i raccordi, le cose. Però l'impianto lo tolgo. Lo tolgo, adesso devo andare domani mattina e lo tolgo. Tolgo, conservo, lotto giù e poi all'anno che viene ci dovrà piazzare. Certo, non credo. Fai bene a Tullio, dai, con la ventaglia che avrei in giro, non sa mai, quello quando te lo portano via il motore, cosa sta qui su. Certo, fai bene a Tullio, va bene così. Praticamente, questa casa è, come dici, tu dici, a monte uno, in alto, ma a grande quello di cosa? Ho capito, si è uscito tutto a scariche. Non sono uscito a scariche, ma una macchina sotto casa che ha messo in moto e ha fatto un sacco di rumori, ha fatto. Ho detto, cosa c'entra Rossi con Monteoro? Giulio, te lo devo dire di persona o al telefono, capito? Ah, ho capito, io qui, sì, sì. Va bene, hai fatto bene. Va bene così qua. Sì, no, guarda, guarda, ma è che ho un po' di dubbio. È una cosa che l'ho fatto io. Va benissimo così. Certo, certo. Praticamente lì ci va a vivere tuo figlio, ci sta già vivendo in quella casa. Sì, e allora? Certo che sì. È meglio così, te lo credo. Meglio così, è così è che almeno c'è sempre gente che controlla, sai, con tutti quanti i delinquenti che ci sono in giro. Oh, bisogna stare sempre allerta. Trovo la foto del ripetitore. Ok. Sì, sì. Io anni fa ci sono andato addirittura sotto quel ripetitore, sotto il traliccio, quello proprio quello della RAI, il più alto di tutti. La magliatura giù sembra che mamma mia, un monumento. Poi ci sono tutti, anche perché avevo fatto dei lavori, avevo fatto in quella zona, no? Mi sono trovato la sera che avevo finito un po' presto, fateci a vedere che vado a vedere un po' dei ripetitori e mi sono andato dietro sotto addirittura alla colonna rotonda di cemento armato. Lì proprio lì. Ok, ho capito. Sì. E avevo fatto diversi lavori. Uno avevo fatto di fronte a Monte Oro, a casa di un elettricista dell'Enel, che ne avevo fatto un lavoro, poi un altro proprio a Monte Oro proprio, nella zona, che avevo fatto tutta una veranda, gli avevo fatto quello, e anche dei serramenti gli avevo fatto, per cui no, degli infissi, sì, degli infissi, non dei serramenti, degli infissi gli avevo fatto. Avevo chiuso tutta una veranda, gli avevo chiuso. Una bella zona, Monte Alto, Monte Oro, d'altronde. È la zona più alta di Sassa in Giratina. Well, adesso ti mando la foto proprio del ripetitore e poi ti mando un vocale, ascoltalo. Ok. Sì, dai acceso il telefonino qua. Bene. Bella zona lì. Ripeto, segnale di TV, mi ricordo che a quella elettricista dell'Ene che gli avevo fatto i lavori, però di fronte, non proprio lì, perché per salire salendo Monte Oro, per Monte Oro si gira a sinistra, mentre invece lui c'è una strada che va a destra, e lui era di fronte, ma aveva tanto di quel segnale dalla televisione che lui non riusciva a vedere la televisione bene, tutta messa male, tutta nuvolosa, tutta disturbata dai vari segnali. E c'ero io il giorno lì da casa sua che stavo lavorando, ma ho detto questa televisione non riesco mai a vederla. E da perché ho detto? Così e così. E per forza, qui a Monte Oro con tutti i segnali che ci sono, qui ci vuole un attenuatore di segnali. Altrimenti c'era un pezzo di filo elettrico, c'era una piattina, una cosa, semplice, come no. Prendo e mi dà questo pezzo di piattina e gli ho fatto un'antenna così, vedi un pezzo di legno, è un bastone di scopa, facciamo una specie di croce e gli attacchiamo, ma funziona, e vediamo, non è che funziona. Beh, gli ho fatto questo dipolo, gli ho fatto, adesso non mi ricordo nemmeno la lunghezza né l'onda quanto era, no? Non me lo ricordo più. E attacca la televisione e si vedeva che era uno specchio, no? Un peccato, e io con tanto di antenna, sono mesi e mesi che non riuscivo a vedere la televisione perché avevo troppe interferenze. Tu immaginati che lì arriva il segnale anche senza antenna. Senza antenna proprio e senza niente. Si vede tutto. Qualcosa dai non manca perché l'antenna non c'è, però le cose principali, soprattutto la RAI, si vede tutto. Canale 5 e tutto, capito? Di quanto è vicino, proprio vicinissimo. Guardati il coso, ho fatto la foto con un vocale. Capito? Tutto lì. Aspetta che sto guardando la foto. quello è il più grande che c'è, quello proprio il grande dove ci sono tutte le emittenti collegate. Questo è proprio quello della RAI però, così è. Che ci dovrebbe essere la RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3, tutta la RAI e poi mi pare c'è anche Canale 5, c'è boh, a metà mi pare sia quello di Mediaset. Ma no, Mediaset ce l'ha conto suo, a parte, da un altro, in un altro traliccio, tutti gli altri sono in un altro traliccio. Ci sono anche le TV private, ci sono anche quelli di Sassari, ci sono tipo Telegita, tanto per fare un nome così a caso. Sì, ci sono diversi ripetitori, no, questo è quello della RAI. Poi ci sono anche gli altri che sono un pochino più bassi, ma abbastanza efficienti lo stesso, soprattutto quello di Mediaset. Sì, sì, capita, va bene, dai. E di Aria sei vicinissimo allora, ho capito. Sì, sono vicino e vedo tutto. Inizialmente c'era un progetto lì a Osci, ma non è andato in porto. Allora assolutamente è stato mediato lì e quindi già mai capito. Poca gente, anzi, nessuno lo sa. Va bene. Cosa ti stavo dicendo? Non è entrato nessuno? No, io sono entrato adesso, perché tanto volevo vedere dove ci sarà nessuno. Anzi, pensavo che tu eri andato al nero, pensavo un po'. Infatti, lo che c'è adesso, vero, ci sarà, almeno Marco ci sarà. Invece no, ci sei tu. Ma avevo capito che te che eri andato lì al mare, andavi tra qualche giorno. Io pensavo che andavi da Luci, cioè al nero. No, dopo il 14, anche dal 14, venerdì 14, da venerdì 14 mi va, perché mia figlia va in ferie proprio da venerdì, venerdì mattina, preparo tutta la roba, carico la macchina, e se no non si stacca più qua, se no rimane una cosa troppo, non so che andare dal luogo da giù. Non sono andato a nessun posto, anche perché poi io, dopo che rientriamo da questa mini vacanza, io ho lavori da fare per il condominio, tantissimi lavori per il condominio ce l'ho fatto, capito? Abbiamo già scrostato esternamente le facciate, poggiori e poi sono tutti da ripristinare, c'è un sacco di lavoro, dove c'erano i cancelli, quello grande, quello piccolo, fare l'androne del mio palazzo l'ho già fatto, devo fare l'altro androne, un sacco di lavori. Sono entrato nel sistema condominiale e quindi l'amministratore, oltre a togliermi la mia quota, mi paga anche, quindi ammazzo il tempo così assieme ad altre persone, naturalmente, perché abbiamo anche l'autoscala a disposizione. Ok, allora fai bene. E cazzo, stai in tempo, intanto lo fai in giro, non ti dà niente, sai, non ti offre niente, per cui lì, visto che hai tutto il tempo, fai bene, poi se lo fai insieme ad altre persone, si può dire che oltre al lavoro è anche un divertimento, tutto sommato, se siete tutti i condomini nella zona, per cui va bene, fai bene qua. E poi torniamo a quel discorso, uno quando è in pensione e lavora più di quando è a servizio. No, altri condomini, il mio condomino che è abbastanza grande, ci ha tolto tutte le aiuole, ci sono delle aiuole nelle finestre già vecchie di resina che sono anche pericolanti, quindi no, nel mio condomino, solo a parte del giardino c'è il giardiniere, il resto tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie le facciamo noi, siamo in tre, capito? Questo ragazzo ci aveva a disposizione anche un'autoscala, anche abbastanza buona, 22 metri, e quindi abbiamo tutto a disposizione, capito? Io sono andato a far parte di questo gruppo tramite l'amministratore, adesso abbiamo fatto passare tutto agosto, prima a luglio ci abbiamo preparato già tutto il lavoro, adesso da dopo che rientro io, dai, dal 20 settembre in poi iniziamo tutti i lavori che dobbiamo fare. E ce n'è un bel, capito? No, solo il mio condomino, no, il condomino degli altri non ci vado io, no. Non posso andare e va nel campo di nessuno, questa è casa mia e quindi lavoro qua. Già ve ne da va, ehi, c'è da cimare tutti gli alberi, ce n'è da fare. Già sul tetto ho fatto una parte che c'erano, non staccati, ma comunque già usurati del cartone catramato, eccetera, quelli li ho già tutti saldati a luglio. Capito? Tutti fatti a luglio, saldati, e poi data anche la guaina liquida sopra per non staccarsi di nuovo, tutto a pennello, a rullo, e ce n'è da fare, ce n'è un bel affare. Già lo credo, ci vuole, bisogna fare questa manutenzione, bisogna farla, e bisogna farla adesso per tempo, magari prima che incominci il tempo cattivo, perciò è meglio darsi da fare, dai. Perché poi viene più male. Sì, va bene, faranno lo stesso, giornate come si deve, che ti permette di lavorare, ma adesso è il momento più adatto, tutto sommato è così. Agosto, perché questa è un'impresa, capito? Un'impresa, però ad agosto non si poteva fare niente, anche perché dove comprare il materiale era tutto chiuso, quindi loro già iniziano adesso, io ho ancora un'altra settimana, te l'ho detto, iniziano, però io poi dal 20 riprendo nuovamente routine, la mattina dalle 8 all'1 e dalle 3 dalle 2 e mezza, diciamo, subito dopo mangiato, fino alle 5, tutti i 7 giorni. No, non so stare, io fermo, no. A prescindere che mi rimangono anche i soldi in tasca, ed è uno, perché capito, ci sono i soldi, a parte la mia quota condominiale che mi viene defalcata, ma ci sono anche i soldi, quindi perché no, non farlo, fa cosa, passare tutto il romanzano, bussate lo divano, o fa cosa, io al bar non ci vado, Giulio, posso andare la mattina presto a prendermi un caffè, le sigarette, poi me ne rientro, ma non funziona così, no. Infatti, no, fai bene, fai già. Che è una cosa buona quella, cosa stai via, ripeto, tanto di un anno in giro, e cosa hai fatto? Ti hai fatto 4 passi, però allo stesso tempo non hai fatto niente di concreto, in pratica, hai solo camminato, ti sei staccato inutilmente, invece questo lavoro ti sentirai anche meglio, perché quando uno si muove e lavora, poi durante il resto della giornata si sente anche meglio, di sicuro. Invece stai così, buttato da un angolo all'altro, o dal divano alla poltrona, alla poltrona al letto, per dire, non conviene. Bisogna muoversi, almeno se non altro, minimo mezza giornata di lavoro, in modo che uno si tiene sempre in perfetta forma. Sì, no, ma io ho preso l'impegno e lo faccio. Se poi ho qualche impegno molto delicato, eccetera, qualche ufficio, eccetera, non è che chi mi viene nessuno, capite? Io non sono assunto, perché non posso essere assunto, faccio una ritenuta dal conto che praticamente non deve essere superiore a 3.000 euro all'anno, anche se sono molto di più, però, capito? Comunque, l'importante è che mi tenga impegnato, Giulio, perché altrimenti divento disciplino. Diventi sempre magnete, sempre vendi, invece così sei impegnato, c'è le tue ore che ti impegni, e va bene così. E sono qua, sono sotto casa, non è che sono in giro da nessuna parte, capito? Mia moglie mi vede, se c'è bisogno, non c'è problema, capito? Sono qua. Certo, già lo credo, va benissimo così qua, a Puglia. Bene, bene, bene. Vabbè, comunque, sono auguri che si devono fare e allo stesso tempo vi mantenete la vostra costruzione, ve la mantenete sempre in perfetto ordine, senza stare lì a chiamare poi una grandissima impresa che non va a carinare, sempre. E invece, tutti gli anni un po' di manutenzione, quello che sia, almeno le cose che si possono fare, poi naturalmente certo se poi ce la fa un tetto, ad esempio, è chiaro che ci vuole l'impresa, è ovvio, ma per fare quelle cose che devi fare tu adesso insieme a queste altre persone, va benissimo così, che lo facciate insieme. E dunque, oltre al fatto che guadagnate, ma anche risparmiate anche al nostro tempo. Questi sono mulattori, non è che sono ragazzi così. Ci sono mulattori, c'è un carpentiere, c'è quello che guida il coso, che è un gruista. Non c'è problema, assolutamente. No, il tetto è stato fatto da Nigra Eterno, che è fatto a cartone catramato e poi è tutto con l'alluminio, ma stai scherzando. Però si stava iniziando a staccare qualche pezzettino di alluminio e scoprirsi il cartone catramato, e quindi quello l'ho ripristinato io a giugno, quello l'ho fatto io. L'ho fatto io, il cancelletto piccolino l'ho verniciato io, l'androne della mia scala, quello l'ho fatto io assieme all'altro muratore, è uscito bellissimo, tutto scrostato i muri, rintonaccati, fatti, verniciato, tutto. Quelle sono tre cose che ho fatto io assieme a un altro. Questa è un'impresa vera e propria, è un'impresa che fa manutenzione straordinaria e ordinaria solo in questo condominio. Mannare due. Ce n'è parecchio cose da fare, ci sono. E poi le cose ordinarie, quelle le faccio io. L'altro giorno ho cambiato due serrature, un paio di scalabagni, cose così. Capito? Dove io ho il mio blocchetto delle ricevute, faccio la ricevuta, una coppia la do al condominio e una coppia all'amministratore. A fine mese fai il totale di quanti lavori ho fatto, scala e paga. Va benissimo così. Va benissimo, oltre al fatto che guadagni allo stesso tempo, passi il tempo, va bene. Sì, sono lavori che si possono fare benissimo. Quando è così, praticamente siamo sempre, si può considerare un lavoro fatto a livello familiare, si può considerare così, va benissimo. Vediamo se c'è Marco, se si è svegliato da ieri, o meglio da quanti ieri. Marco ci sì, però non mi sa sempre in Rumenia. Sempre in coma profonda, non ci ho preso niente. E lui è come si dice, uno di quelli sonnamboli, si gocca e dico in manzana, vai forza. E infatti, e poi rimane tutto il giorno a dormire, bubu. E vabbè, dai. Si vede che non ha voglia, a meno che non sia uscito, che si abbia fatto una passeggiata, sai, ma già si stava lamentando che va sempre al mare, sempre Pratamola, era anche stanco di andarci, a meno che non è andato di nuovo dalla via lì, a Bancari, e allora passa il tempo lì, no. Ma comunque, Marco, se ci sei, batti un colpo. Secondo me c'è a casa, ma non ne ha voglia, vabbè. Ieri mi ha mandato un messaggio anche Valerio, mi sono dimenticato anche di risponderlo. È arrivata gente e mi sono dimenticato. Valerio, se sei all'ascolto, buonasera anche a te. Kappa, no, Giulio, bisogna fare, ehi, aspetta, tu non sei sempre freddo, eh? È che è una tua decisione non fare più lavori a nessuno, perché ne hai le scatole piene, perché hai già dato, ma tu c'hai già una certa età, quindi è giusto così, io ancora sono giovane e voglio fare, che sennò mi viene la biocco, capito, e no, ma poi io fermo il suo stare, io tutte le mattine anche a Sassari, io alle 6:30, alle 7 sono in terra, non pensare che a quando c'è la mia moglie è tutto pulito, è tutto fatto, poi riesco a prendermi il caffè, ritorno e porto al cane, questa è la mia giornata. Ormai l'abitudine è quella, ti ho stato preso prima per andare al lavoro e dunque l'abitudine ti è rimasta, adesso è ovvio che continui così. No, io mi alzo intorno alle 8 o 4, mi alzo, mi messo, alle 9 sono già in bottega, 9 o 4 sono già in bottega e sto continuando a fare. Anche stamattina ho messo un po' a posto la parte interna, perché davanti in pratica si può dire che è finito, devo solo mettere il pavimento e basta, che sto aspettando che mia figlia abbia un po' di tempo per andare a sceglierselo, se no non ho, anche perché oggi era fuori Sassari, sì che forse ci andiamo domani, se è libera, vedremo. Ma stamattina stavo mettendo a parte nel retro, diciamo, dai, sistemando un pochino, anche perché lì poi col tempo faccio anche lì, no? Metto la luce e finisco tutto, poi butto fuori le macchine, butto fuori tutto e così si prende tutto il locale definitivamente, capito? Vedi, anche tu potevi tranquillamente chiamare un'impresa, uno, te, fa un amichito, dimmi cantè, ciao, arrivederci, invece te lo stai facendo tu, perché è talmente l'abitudine che hai di fare le cose, che dici, ma come lo potete fare? Pagare quando me lo gioco fa, io me lo posso io. Capito? Così è, quando uno è abituato non c'è niente da fare giù, non c'è niente da fare. Assolutamente, è proprio così, vabbè, comunque, l'importante è fare qualcosa poi, giusto per ammazzare il tempo, io do una mano al mio condomino e sto bene, diciamo, ci passa la giornata, ma che te ne accorgi, ridendo, scherzando, via, capito? Beh sì, no, ma inizialmente avevo chiarato quello che mi aveva fatto l'anno scorso, un lavoro qua accanto. E quando dice sì, vengo, e mi ha chiamato dopo quasi 3 mesi. Io nel frattempo ho fatto, ma gli carveni o non veni, ne ha voglia di fare. Un giorno, lunedì 20 era, mi dice per me, e adesso ho già iniziato io, guarda. E io ho intanto cominciato, adesso provo a fare io questo pezzettino. Da un pezzettino oggi, un pezzettino domani, e alla fine è successo che l'ho fatto tutto, per dire, no? A parte l'interruzione che ho fatto, 2 mesi e mezzo di interruzione, per il fatto dell'intervento che avevo avuto, eccetera. Perché ho ripreso da poco, da pochi giorni. E allora è successo così. Ecco, come dice, te va te, Roberto Pugli, con un'impresa che fa questi lavori. Anche lui ha la scala di quella col camion, la piattaforma, eccetera. E non si è visto, dopo 3 mesi mi ha chiamato, se vede che ero impegnato, ma mi potevi anche chiamare prima e dirmi sono impegnato, aspettami, oppure se hai fretta fai. E allora io ho visto che non veniva, detto, beh, vabbè, lo porto io. Mi si è considerato che lui non si è fatto vivo, che e ho iniziato piano piano, e fin quando sono riuscito a fare tutto, hai fatto bene anche me. Io infatti. Assolutamente, no, beh, certe cose io, cose che so fare, un po' la parte idraulica, le cose mie, eccetera, però il resto, intonaci queste cose, poi sulla scala aerea non ci salgo, rimango giù a passare materiale, a fare, capito, preparare magari quello che serve, che salgono loro che sono assicurati, e niente. E nulla, comunque cose da fare già ce n'è, ho tutte le porte a verniciare delle caldaie, figurati, ho 2, 4, 6 porte in ferro delle caldaie, il cancello grande del passo carraio, quello piccolo ho già verniciato, c'è un androne che quello me lo faccio da solo perché il bianco l'avevano già dato, devo fare solo la parte bassa io e il mezzo muro in giallino, capito, e basta. Poi altre manutenzioni così, le ringhiere, i tubi delle ringhiere, quelli devo tutti verniciare, quindi me li faccio piano piano. La gente vuole un bel cosa va. Già passa il tempo, già passa. Già lo credo che passa il tempo, caspita. Non so, no, ma è fatto bene, quelle cose si possono fare, ringhiere, verniciature varie, eccetera, si fanno tranquillamente, no? Non ci sono problemi. Pronto un corno, scusa, pronto un corno, siamo su 10. Se siamo su 10, sì, certo. Vabbè, ma quando cosa ci mette a mangiare? Due minuti, cosa ci vuole a mangiare? Fatemi venire la moglie, sto parlando con qua, io ho anche la portante schiacciata e sta ascoltando anche tutto quello che ti sto dicendo. Ehi, andiamo dentro. Ma cosa devi fare? Cosa devi fare? Ecco tutte. Va bene, d'accordo, va. Fai come quelli. Fai come qui. Ciao, ciao. Luca, ti saluta Marco. Ha detto che stavo mangiando e poi dice che ha delle cose da fare. Dove sempre cose da fare. Prima si lamenta, non c'è mai nessuno, attendiamo che alle 10, la può rimanere a coccio. Che te varia, pensiamo te varia, e poi c'è i mandroni. Ha detto che deve fare le cose al computer, si vede che sta, dopo mangiato si attacca al computer e dice se no poi si fanno le robe, e certo lì, a lui non preoccupa il fatto che si fanno le robe, alle 3 del mattino è attaccato al computer. Ehi, si attacca al computer a ordinare cagate, scusando il termine. A pigliare pasticci, a consumare, ecco già va dietro me. A voi siete i buoni in gomma di vostra massa, siete i buoni tutta questa cosa che utineggia sempre. Lo siete già buoni, mondezza. Lasciamolo fare. Ha detto che sta mangiando adesso, sì, siete i due wasabi, a mangiare su un piatto di gol. Vabbè, non ha voglia, dice che non ha voglia. Dice se deve mettere al computer, vabbè, fai al computer. Rimanga al computer allora, faccia quello che vuole. Kappa, vediamo se c'è qualcuno da qualche altra parte. C'è nessuno che vuole entrare su 10, cambio. Tutti morti. Non c'è nessuno. Vabbè, va bene. Antonio Barracuda, non è che sei in ascolto per caso? Lui sta sempre in agguato la sera, però non entra mai, un attimo. Come sto? Vabbè. No, vabbè, ma Marco già è presente, che c'ha questi alti e bassi anche lui. Io al prossimo trovetto. Tra un po' sarò ancora più presente, però la sera già ci sono, vai. Due chiacchiere già ce le facciamo. Lampede di tutto. Dai, qua, ma ne vai. Poi dice che non c'è mai nessuno. No, io gli ho detto a Giulia al telefono, sono io che... C'è è un periodo che ho un po' di sonnolenza. E certe volte proprio non ho voglia di stare al baracchino, perché come sento le voci mi addormento. Ho chiesto a mia zia se potevano essere i farmaci, sai, questi ormoni che sto prendendo, ma secondo lei no, non è quello. Secondo lei non è quello, devi riposare, devi avere un tenore di vita molto più sereno. Non puoi mangiare e pranzare alle 7 di sera e cenare alle 3 di notte e con i catti alle 5 del mattino. Il tenore di vita è sbagliato, Marco, te l'ho sempre detto. È molto importante quello. Io ho 59 anni e non mangio mai sonno. Io mi corico alle 11 e mezza, a mezzanotte, se c'è qualcosa alla televisione. Ma è stato inverno, non me ne affutti nulla, quello è il mio orario. E alle 7 del mattino io sono in piedi, bello, tranquillo, dormo tutta la notte. Ma così tu hai un tenore di vita troppo diverso, non si può adeguare. Tu usci i biglietti il giorno per la notte. Tu usci e Giulio. Beh certo, sono abitudini secondo me un pochino fasulle queste. Il fatto di pranzare ad esempio a quest'ora o di dormire la notte alle 3 del mattino perché si è attaccata al computer. Io lo stesso, io dormo tardi la notte, nel senso, però la mattina alle 5, alle 6 massimo sono già sveglio, mi accendo la radio, le cuffie nel letto, mi ascolto tutti i giornali radio, poi sino alle 7, poi accendo la televisione alle 7 sempre con le cuffie. Ascolto un po' tutto, vedo anche le immagini dei vari notiziari, ma io dormo se no 5 ore, 4 ore, tante volte anche di meno, in un'intera notte, perché se mi sveglio verso le 5, le 6, entrerò tante volte anche alle 2, tante volte sono sveglio e magari sto guardando la televisione, Marco. Per cui, certo, se tu stai tutto il giorno così, ti rilassi troppo e ti prendi con l'abitudine, e secondo me è sbagliato. Bene, poi tu comunque sei grande, ma se ti addormenti adesso che hai 46-47 anni, figuriamoci quando avrai 80 anni allora. Sì, ma probabile che sia legato al sonno mancato della notte. Per esempio, anche se io vado a dormire a mezzanotte, io ieri notte mi pare che a mezzanotte ero già a letto, però il sonno prima delle 3 non viene perché sono ancora c'ho questi orari alterati e quindi il sonno non viene prima delle 3. E vabbè, purtroppo fui qua, e mamma, vabbè, lei si sveglia prima, però che dobbiamo fare? Abbiamo preso una brutta abitudine, mangiare tardi, cioè, infatti, vabbè, ho finito, diciamo, la frutta me la mangio più tardi, dai. E comunque sono orari sballati, lo so che sono sballati, e se no che ratapignara sarei. Ma nel recente è il fisico, Marco, te lo dico perché così la realtà è quella, cercare di riprendere un po' le cose dalla normalità, capisco che oramai è un'abitudine, però bisogna a volte anche adeguarci e seguire le cose giuste. Mangi troppo tardi, pranzi troppo tardi, cini troppo tardi, è chiaro che non ti viene sonno. Invece quando io ceno, pranzo, oggi abbiamo pranzato che era più dell'una e mezza, va benissimo, perché sono entrato tardi io. A cenare 8:30, alle 9, va benissimo, alle 9 va benissimo. È chiaro che poi una volta hai cenato e ti rilassi, a quell'ora ti viene sonno. Ma come fai a cenare a mezzanotte, alle 2 e poi andartene a coricarti? Come fai? Ti rimane tutto sullo stomaco. Il fisico ha bisogno anche di riprendere quella routine quotidiana, l'organismo ha bisogno di tante cose. E tu stai prendendo, secondo me, il giorno per la notte, ecco perché c'è sonno la sera, sei stanco, eccetera. Perché non dormi poco e non stai neanche facendo le cose regolari, tutto lì. Cerca di farlo, di riuscirci, perché te ne va la tua salute, per la tua salute, capito? Il fisico ne risente tantissimo di queste, non sono stravagante, ma sono cose che non vanno bene per il fisico. Il fisico ha bisogno di tante cose, del suo riposo, di tutto, anche esci poco, non cammini, a piedi, non fai, non c'hai 46 anni, non c'hai, stai attento perché più avanti va l'età e più il fisico ne risente, ravvini, diventi un cadavere, vai giù. Sì, e beh certo, anch'io sono dello stesso parere. Tu la mattina cerca di muoverti, faticare un po', quando esci non uscire sempre in macchina o in motorino, vai a piedi, vai a fare la spesa, vai, se c'è qualcosa da fare a casa, fai, se c'è una finestra, fatela, tutte queste cose, sono tutte cose che fanno parte della vita e serve tutto, è utile stare lì, se tu stai tutta la mattina così assonnato, è chiaro che poi diventa un'abitudine e anche durante la serata ti viene sonno e non hai voglia, invece ti muovi, ti rendi più attivo, il fisico si riprende, perché si riprende se tu fai movimento e rimane più stabile il modo di vivere, ecco. Poi il fatto di mangiare alle 8, vabbè, non so se tu fai poi la cena a mezzanotte, quello sarebbe un danno, sì. Se invece tu ceni alle 8, per dire, la sera, e ti poni un paio d'ore, ti guardi un paio d'ore di televisione, ti guardi un film, ti guardi, e poi puoi andare a letto tranquillo, ma se tu puoi chiedere a mezzanotte di nuovo, immagini, fai il pranzo alle 8, alle 6, alle 7 di sera, e poi a mezzanotte fai la cena, è chiaro che è tutto sfasato, non va bene così, ma comunque vedi tu come ti devi comportare. Eia. Ho notato comunque che la qualità del sonno, anche se dormo molto, a parte che digerisco tutto, io posso mangiare anche alle 4:30 come l'altro giorno, il cordon bleu, digerisco tutto, però la qualità del sonno non è buona, non è la quantità che importa, è la qualità. Io posso dormire anche 9 ore, eppure mi sveglio già stanco, perché la qualità del sonno non è buona, e lì purtroppo non... la medicina si ferma, cioè anche se prendi qualcosa per dormire, però poi la qualità del sonno è quella che è, quindi mi sveglio già stanco, è strana la cosa, boh. La circolazione del sangue è anche quella che ti fa alzare il sangue. Devi camminare, devi muoviti, ma te lo dico con molta... muoviti, perché non va bene così. Quella circolazione del sangue, che vai tutto attropizzato, non stai camminando, non ti muovi, non stai facendo niente. Già hai una vita molto sedentaria, diversa da qualsiasi altra cosa. In più non cammini, non ti muovi, è chiaro che ti alzi stanco. Ne sta risentendo tutto il fisico, Marco. Ehi, e poi ho notato una cosa, c'è una sorta di resistenza psicologica al sonno, è proprio una resistenza psicologica all'addormentamento, e questa cosa è aumentata da quando mamma era stata molto male, che andava in camera anche all'una, alle 2 di notte a controllare se respirava, se andava tutto bene, capito? È come se fossi sempre sul chi va là, come se dovessi sempre essere pronto a ogni evenienza fino a tardi, capito? Me ne accorgo, lo riconosco, è così. Ce l'avevo già un po' da tanto questa cosa, però è aumentata, sai, con i genitori che invecchiano un po'. E va bene, che devo fare? Mi aveva detto cosa, Antonello Barracuda, dice, perché non viene ogni tanto a camminare con me? Dice, io dopo mangiato mi faccio 5 chilometri camminando. Ho detto, caspita, 5 chilometri, ma io non posso fare nemmeno 500 metri, che c'ho già il fiatone. Figurati, che non fumi, non fai, che cos'è quello? Non va bene, no Marco, non va bene. Io cammino, mi muovo, sto tutto il giorno facendo, eppure fumo. Non ho mai risentito di queste cose, grazie a Dio, assolutamente. Quindi te lo dico... perché ti voglio bene, cerca di muoviti, non dico di arrivare 5 km, però esci, fatti la tua passeggiata a piedi, cerca di muoverti, quella zona è anche molto vicina al centro, tutto, te ne scendi da lì, una camminatina, vai a prendere un caffè in Piazza d'Italia, poi risali a piedi, muoviti Marco, muoviti, e se avessi abitato io al centro così come abiti tu, lì, e risalto sempre a piedi, chi ne avrebbe preso macchina? Io purtroppo a Sassari abito in periferia, quindi per forza mi serve la macchina, però non ti nego che io il sabato col mio amico qua sotto di me usciamo in macchina, la macchina lasciamo lì a metà in via di Umberto Alto e ce ne scendiamo al mercato a piedi e saliamo a piedi, capito? Tutto da via Le Caprera, tutto scendendo, tutto a piedi, e poi ce ne risaliamo in macchina, perché insomma tutta la parte alta è anche tutta in azzarda e non siamo più ragazzini tutti e due, però io cammino molto e durante il giorno sto sempre facendo. Io stamattina ho iniziato a fare quei lavori lì a Monteoro che ora abbiamo iniziato alle 9, finita alle 2 era mi sempre vendi, sempre facendo, ci siamo seduti un attimino sotto la veranda a berci una cosa fresca e poi ce ne siamo rientrati a casa. Però ti dico, devi muoviti, vai Giulio. Sì, ma è così Marco, ti devi muovere, perché importante, ma ci mancherebbe altro, come fai? Eppure a quell'età, a 47 anni, caspita, a 47 anni io, tu pensa io nel 76, sino a due mesi fa, sai che strada avevo fatto? Stavo camminando la sera, no, andavo, adesso da quando ho avuto l'intervento, vabbè, non ci sono più andato, ma riprendo, riprendo, però non molto riprendo, la sera la camminata me la faccio. Sai che strada ho fatto? Sono partito da casa, centro di punti, ascoltami, e sono sceso giù verso Monte Tignoso, proprio dove abita Walter, in quella zona lì. Sono finito lì in via, aspetta, come si chiama quello, insomma ancora più giù, per andare per quella campagna, e sono finito esattamente nella strada, ho fatto tutta la strada che porta al carcere di Bancari, sì, in fondo lì. Praticamente sono passato vicino a campagna di Walter, sono passato, sempre a piedi, eppure ho trovato la strada, ho attraversato questa strada e sono finito al passaggio a livello di San Giovanni. Da San Giovanni poi sono risalito tutto via lo Porto Torres, ho fatto sino ai punti di nuovo, sino al semaforo di punti, per dirti, no, è una distanza roba di 8 km più o meno, ho 76 anni e l'ho fatto a passo abbastanza veloce anche, no? Non a passettino così, sì, ho fatto una bella sudata, ma lo scopo principale era proprio quello di sudare. Arrivi a casa, ti fa la doccia e sei tranquillo così, ma se rimani fermo capita, 47 anni io mi avrei fatto 10 km di corsa senza mai fermarmi, pensa un po'. Mi prendi, Marco? Eia. E poi anche la mia cattiva abitudine di non aver fatto sport da giovane, cioè bisognava abituarsi anche da giovane a muoversi un po', adesso viene un po' in salita. Eia. Poi sai qual è il mio vizio? Io tendo a uscire solo se c'è uno scopo, tipo una commissione da fare, un negozio da visitare, qualcosa da comprare, anche quando andavo al centro, ci doveva essere sempre uno scopo. Cioè uscire solo per farsi una passeggiata, per vedere gente, per pigliarci un po' d'aria, non lo faccio più. E invece dovrei farlo, capito? Uscire proprio per uscire, lo scopo di uscire è quello di uscire, di muoversi, sciogliersi un po' le membra. Te capì? Vai Claudio. Sì, infatti nessuno ti sta dicendo devi andare a correre o devi andare a fare. Cammina però. Sei in un punto tu dove puoi tranquillamente arrivare al centro senza fare tanti sforzi. Assolutamente. Capito? Perché sei lì in mezzo, quindi una volta che fai via Le Trento, scendi, attraversi via Roberto, sei già in Piazza d'Italia, ti fai una bella camminata, poi te la fai anche al rientro. Invece prendi un caffè lì sotto casa o a 50 metri, vai in Piazza d'Italia, ti prendi un caffè, ti riposi 10 minuti, poi torni a camminare, ti fai una passeggiatina, ma dove vuoi? Lì è una zona. Io quando ero via Pascoli, gli anni sono rimasti via Pascoli, io macchina la prendevo una volta alla settimana, andavo al mercato a piedi, andavo in farmacia a fare la spesa a piedi, da tutto lì ero sempre a piedi, la macchina sempre in garage, sempre, perché si poteva fare, qua no, io sì, vado per dire via Vannabasso sotto casa Antonella a prendermi caffè, la mattina vado a piazzare i segni a piedi, ma poi rientro, ma è vicino, non è lontano, però è tanto cammino, capito? Poi per il resto è chiaro che se devo andare allo spino a fare la spesa devo andare in macchina, perché prendo l'acqua, prendo pesi eccetera, ma poi non viene bene, ma necessita perché sono in periferia, ma uno come te che abita lì è un posto eccezionale per camminare a piedi, ma fallo però, fallo, perché guarda, credimi che con l'andare del tempo puoi anche peggiorare, non te lo auguro, ma stai molto attento perché è molto pericoloso così, è molto pericoloso così. Vai Giulio. Ok, tu dici che bisognava farlo da giovane, ma non è vero, o Marco, puoi farlo anche adesso, certo che adesso non ti puoi mettere a fare chilometri, ma adesso se ti fai per dire 400-500 metri così camminando e domani te ne fai 600 e dopodomani allunghi ancora un po' e così via, dice che poi riesci a fare anche dei chilometri, per dire, no? Tu hai idea dove vi accendi a Sassari? Monte Rosello Medio praticamente? Allora, beh, medio proprio no, ma basso comunque, insomma, diciamo fra il medio e il basso, Monte Rosello Medio, dai, grosso modo. Da lì ad andare fino a via Catalocchino da Fusaro a piedi, cioè da via Catalocchino da Fusaro, poi da lì a allungare e andare in via Catalocchino dove c'è un amico falegname che c'è ancora, che ha oltre 80 anni e sta ancora lavorando, per dire. E io l'ho fatto a piedi, e andare da lì sino alla casa di commercio, oppure dal monte sempre all'Impis, arrivare sino al Podolo Pinna, per dire. E tutte queste strade io le ho fatte, tante volte andare anche alla GBC. E lo faccio tante volte a piedi, e lo faccio sempre. Io la macchina in città non la uso mai, io parto da casa, arrivo lì davanti al magazzino, parcheggio e poi quando devo camminare vado in città, dappertutto a piedi. Mi faccio un giro ad esempio tante volte in Sassari Vecchia, vedere le vecchie mura di Sassari in giro, le vecchie costruzioni. Quando passo lì penso lì sono nato io, tutte queste cose che una persona deve fare, è inutile stare lì buttato sul divano a casa o sulla poltrona, no? Ma va bene, assolutamente, io Marco, riprendi. Sì, infatti dopo quell'iniziale periodo post-operatorio, no, quando sono rientrato, quando mi hanno rimosso quelle piastrine dal naso, mi era venuta questa... E mi sentivo un leone, volevo fare, andare, no? E caspita, uscivo in macchina anche col caldo, non me ne fotti a nulla. Adesso purtroppo sono rientrato nella normalità. E sono proprio come ero prima dell'operazione, troppo sedentario. Poi diciamo che internet ha contribuito anche a non uscire ai negozi che frequentavo io. Vabbè, qualcuno ha chiuso, qualcuno ormai non ne ha fatti più nulla. Poi la roba non la trovi qua, non la trovi. Io certe volte compro roba dall'altra parte del mondo, cose che qua non ti puoi nemmeno immaginare che esistano, cioè qua non sanno che esistono. E quindi tu da casa non muovi un dito, solo ordini e la roba ti arriva, capito? È un circolo vizioso. Adesso ti faccio un paragone. Io andavo molto da Pasquale, no? Per cose sportive. Claudio Andri si chiamava quello. Come si chiamava Andri di nome? Io non lo so come si chiamava, comunque Claudio. Benissimo, dove era, sì. Andavo da Andri, andavo da Pasquali, perché tutte quelle cose che mi interessavano, palestre, carabine, solo che poi mi sono reso conto che è una farmacia quel negozio. Cioè, certe cose di libera vendita le trovo anche da internet e le pago molto, ma molto, ma molto meno. Nonostante la spedizione, le pago molto meno. Poi lì ogni volta devi ordinare, passano mesi, è una cosa tipo GBC. Pensa, gli avevo portato una pistola a aria compressa, perché aveva la valvola andata, non funziona a CO2, a bombolette di anidride carbonica, c'era la valvola rotta. L'ho portata a Pasquale e ho detto, allora, quando vi arriva la valvola mi telefonate. Beh, tu mi hai più sentiti, sono passati mesi, non hanno mai più richiamato. E gira gira voglio vedere fino a che punto arrivano. Oppure mi burio, vado lì e me la ritiro la pistola. Se che sia aggiustata o no me la ritiro, dico lasciate perdere, non fate nulla. Purtroppo quello è un componente, è un pezzo che solo loro possono avere, non lo trovi su internet, quella è proprio un'eccezione, l'eccezione conferma la regola, solo tramite loro lo posso avere, però se non sono interessati a farmelo avere io lascio perdere. Buonasera. Ciao Antonello. Sì Marco, d'accordo, ma a parte questo discorso, sì. Non è detto che per andare a fare una passeggiata che devi per forza andare nei minuti a spendere, no? Ti bastano i soldi per un caffè, per dire, no? O al limite se incontri un amico, magari offrigli anche un caffè o lui lo offre a te, per dire. È tutto un altro discorso. Io scommetto che Antonio Bergantonello, nonostante che lui, anche lui ha i suoi problemi, i suoi impegni lì a casa, eppure io suppongo che esce e si fa la passeggiata, il giretto, se lo fa ugualmente, a parte il fatto che fa anche qualche lavoro che gli capita, certo, è ovvio. Però boh, non lo so, Marco, vedi tu, muoviti, ripeto, muoviti, tu pensa solamente a una cosa, adesso a questa età tu mi dici che ti stanchi per fare 500 metri, capita, e quando avrò la mia età allora, tra 20 anni, non lo so, e allora cosa faresti? Non 500 metri, ma non riuscirai a fare nemmeno i 50 metri, e speriamo che non sia così, per cui devi muoverti assolutamente, devi pensare a te, perché tua madre, d'accordo, oggi c'è anche tua madre e va bene, però tua madre ha una certa età e a un certo momento si sa la vita come funziona, no? Per cui prima o poi come ti ritrovi, è questo, Marco, io ti auguro tutto il bene di questo mondo, ci mancherebbe altro, però questo è un ragionamento, un discorso che penso che tu l'abbia fatto qualche volta, ma se non l'hai fatto non lo dovresti fare, riprendi Marco e fai girare tu poi. Sì, Antonello gira più di me, perché lui anche non avendo macchina, se non trova il tram al volo magari ce la fa a piedi. Ciao Antonello, ben entrato. Cammina molto molto più di me e non c'è paragone. Anche va da Eurospin, da casa sua ci fa quel giro, va da Eurospin quello dietro lì, non mi ricordo la via, quello vicino là comunque. Guarda, in realtà finché la strada è pianeggiante non ho problemi in discesa, sono le salite che mi costano un po', perché io già vado in Piazza Italia, Piazza Castello, ogni tanto per qualcosa vado, però è la salita che mi frega. Adesso 500 metri, vabbè, col fiatone è esagerato, ho esagerato. Le salite mi fregano, capito? Quelle mi pesano un po' perché sono disabituato, molto disabituato. E se avessi avuto lo scooter sarebbe stato peggio, se lo scooter è fermo in garage da quel lì, perché non... E l'assicurazione, cioè, i due mezzi assicurati per noi sono proibitivi. Se avessi la moto, piglierei la moto anche per fare 50 metri. Non va bene così, Marco, assolutamente no. Non va bene, nella maniera più assoluta. Avanti Antone, c'è anche Claudio comunque, non so se l'avevi ascoltato prima. Avanti Antone. Già l'ho sentita Claudio, saluto a tutti comunque. Ma veramente io non faccio vedere un speedy qui mio, Marco. Perché la fa parte a piedi, arrivo, mi faccio la tappa da Nicco, poi da Nicco vado a vedere lo spin di Gaverola, da Gaverola torno di nuovo indietro, vado proprio da Nicco, la 5 solo per salire e basta, qualche volta, e a volte la sera vado subito in... gli attempi lì la vittoria a prendere le pizzette, sa qua capire, non è fuori nulla, anche se per dire dovessi perdere il tra, ma comunque sia che me ne faccio passeggiate a piedi. Va bene, stai fischiando Antonio, c'è un innesco, è sopravvenuto un innesco. C'era un innesco anche. Avanti Claudio. Parlate una volta a Genova con prendo un accidente, ciao Antonio, no Marco, Antonello manca paragone, io lo vedo spesso, sale, scende, si fa tutto via Carlo Felice, a piedi, con le buste salendo, e molte volte scende da Nico anche a piedi, poi magari a salire, se trova me sale con me, se non le dà un passaggio Giuseppe oppure prende il tram, però la maggior parte lo scende a piedi, Antonello cammina, cammina un bel. Tu che non cammini nulla, tu devi camminare, tu devi muoverti, lì sei in un posto ottimo per fare belle passeggiate, belle, ti fai tutto via Roma, ti fai scendere a Piazza d'Italia, l'ho detto, vai nel punto più basso a prendere un caffè e poi te ne risalto, però fallo anche tu, sei va bene così. Vai Giulio, cosa stavi dicendo? No, lo stavo dicendo che lui deve camminare, è chiaro che non va bene così. Io gli ho fatto l'esempio, lui adesso ha quell'età, la madre è all'età che ha, anche se è più giovane di me, so che è più giovane di me, ma per dire, la vita si sa quale problema poi ci riserva a un certo punto, sicché deve pensare anche a se stesso, gli ho detto, non solamente andare lì in giro, e vabbè, per lui è grande e fa quello che vuole, ci mancherebbe altro, io non è, ma adesso stiamo solo io ragionando, stiamo discutendo, perché lui va magari il suo budget, ad esempio, se lo spende lo stesso io in baracchina, eccetera. Io ho sperato che lui non guadagna perché non lavora, allora penserei anche un po' a risparmiare, a fare, insomma, tutte queste cose, scusa Marco, te lo dico, però io lo farei nella tua situazione, se uno finché lavora, guadagna e tutto va bene. Non so se hai mai pensato a questa storia o Marco, più prima. Sì, certo. Però contate che già da giovane, già dopo lo sviluppo c'era già questa presunta stanchezza cronica, cioè mi rendevo conto che già gli sforzi e le cose che facevano gli altri io non riuscivo a farli. Poi vabbè, un neurologo aveva il sospetto che ci fosse qualcosa di neuromuscolare, di muscolare, anche lieve, anche una cosa lieve, qualche forma distrofica lieve, ma lì non, l'elettromiografia era negativa, eppure il sospetto in lui c'era che qualcosa ci fosse, capito? Ma non abbiamo mai poi appurato, non abbiamo fatto cose più approfondite. Le mando via, se tu vieni qua sotto la mattina da Valentina Vella, come vai, vieni tutti i giorni a pigliarti il succo di frutta, puoi vederla. Sì, vabbè, è una ragazza, vale l'altra. Anche Antonello si piglia il succo di frutta, capito? Succo di lupolo! Allora, stamattina me l'ho preso verso le... Noi siamo rientrati con Giuseppe, sono state le 11:30, una cosa del genere, perché stamattina siamo andati lì all'Inps, non abbiamo cavato piedi, non abbiamo cavato, siccome ci abbiamo detto là di aspettare da Roma a letto, e c'era uno che ha detto, io sono 4 mesi che non piglio la lira, sto morendo di fame, sto già squerando, dice cosa devo aspettare, la carrozza, gli ha detto. Io ho detto, dice cosa vuole che li faccia io? Ah, non lo so, dice, ve la lei. Vabbè, quanto ho visto io era presto, che erano le 8 e qualcosa. Le 8 e qualcosa. Sono andato a ritirare il coso di Filippo e poi sono sceso a Monte Oro, dovevamo telonare la piscina oggi. Vabbè. Non ve ne diranno. Lui per carità, guarda, lascia perdere. Vai Giulio, riprendi. Ok. Sì, ma allora avevi consultato un medico anche per questo fatto della tua stanchezza, eccetera, ma se poi non hai fatto quello che ti ha detto, mi hai fatto capire che ne avevi già consultato, ma anche il medico di famiglia ti può aiutare, vedi un po' tu. Quando vuoi fare la spesa, se che andare con la macchina, non andarci con la macchina, ci vai da solo, ci vai e ti porti anche la busta della spesa, sono tutte cose fondamentali per il fisico umano, Marco. È chiaro che se tu vai per fare la spesa, te la metti in macchina, poi l'unico sforzo che fai è portartela dalla macchina a casa, non è che... Invece fai la passeggiata a piedi, fai la spesa e ti porti la busta, così... Vai piano piano, ti stanchi perché non sei abituato, ma piano piano ti abitui e vedrai che vai avanti. Ma ripeto, hai consultato un medico per questo fatto della stanchezza, parlando di quello, non di altro, di stanchezza, l'hai mai consultato? Sì, ha voglia. Ma so che la, cioè anche se fosse stanchezza cronica, non è ufficialmente riconosciuta, anche se, se si riconosce che ce l'hai, non hai diritto a nulla, non è a parere, cioè come dire, è a discrezione di una commissione che, però comunque torniamo al discorso che non essendo una patologia da riconosciuta non se la tieni, in poche parole, non c'è cura anche, non dovrebbe esserci cura. È per quello che non. Poi non so se ci siano, come dire, esami specifici per identificarla, ma sono supposizioni più che altro, capito? Supposizioni, perché io se fai le analisi del sangue non c'era nulla, quando fai il check up della salute non c'è mai nulla, ma sono sempre stanco. E infatti a un certo punto i medici, anche il medico di famiglia ha detto, ma non è possibile che non ci sia nulla e tu sei sempre stanco. E allora può essere che sia quella, ma tanto non si può dimostrare che sia quella. E vabbè, è un discorso lungo. Allora è solo una questione mentale. Secondo me è solo una questione mentale. E sei tu che devi entrare nelle luoghi delle idee. Di sforzarti e faticare un po', nel senso muoversi, camminare, senza stare lì a pensare a quello, perché io sono convinto allora che a questo punto se non ti trovo niente, se non hai proprio niente di niente su tutti gli esami, vuol dire che è solo una questione mentale tua, una specie di pigrizia che hai tu mentalmente e non vuoi fare o non sei portato a fare, però ti devi sforzare e fare qualcosa. Il forno vivo mi piacerebbe, ma manca la materia prima. Non parlare di queste cose perché la salute non dipende da quello. Non dipende da quello, Marco. Vai Claudio. La buffonatura, sono buono di fare le cose che devi fare, che poi vedrai che te ne trovi bene, perché più va avanti con l'età e peggio è. Io sono ancora in ultima forma perché ho sempre fatto le cose giuste da fare, ho iniziato da ragazzino a lavorare, a muovermi, ho fatto sport, continuerò sempre fino a quando ce la faccio a lavorare e a muovermi, perché serve, se stai a casa seduto, mangiando, con tutti questi orari sballati, e come me che io fumo e non mi muovo, allora veramente diventa molto molto critica. Quindi fai le cose che devi fare, una passeggiatina fa bene, non dico che devi fare 5 km come ti va Antonello, però una passeggiatina lì la puoi fare tranquillamente, la mattina quando ti alzi, invece a te ti piace dormire, perché intanto devi cercare di superare questa sonnolenza che hai, come andando a letto presto e regolarizzandoti anche sul mangiare, cioè con degli orari un po' diversi da quelli. Se riesci a riposare, magari una notte un riposo, due notte un riposo, tre notte, poi piano piano l'organismo riprende, il fisico prende la sua stabilità, secondo me ce la fai ad alzarti la mattina come fanno tutti, alle 9, alle 10, andare a prenderti un bel caffettino a piedi, salutare qualche amico che incontri e poi rientrartene a casa all'ora di pranzo. Secondo me è un sacrificio, perché è talmente l'abitudine che hai che sono sicuro che non ce la farai, però se ci provi può darsi che riesci a regolarizzare questa tua personalità un po' sballata. Vai Antone. Aspetta, sto andando a prendere una zanzara che mi punga, aspetta che la prendo. Qua è pieno di zanzare qua, nonostante il forno a letto, tutte queste cose per ucciderle, sembra che siano più resistenti di una volta, non riesce a debellarle, no? E noi apriamo molto le finestre, conta. Guarda, io ho le zanzariere da tutte le parti e ti posso garantire non ho giù visto una. Vabbè, ma non, No, no, no, zanzariere no, non, non, non, non mi piacciono proprio, non lo so, mi limita la... non so come spiegarlo. A parte una volta, no, anzi un paio di volte sono dovuto tornare, sono dovuto salire dalla finestra con l'aiuto di qualcuno per chiavi dimenticate o smarrite. La finestra per fortuna era aperta, sai, e sono riuscito a entrare. Se metti pure zanzariere, roba del genere, vabbè. Scusa, ma la zanzariera come la piace? Tu pure vedi autocredettanti, boh, Giulio. Io le zanzariere ce le ho scorrevoli. Scancio e la tiro su e dentro quando mi piace dalla finestra, anche se è agganciata. La posso sganciare sia internamente che esternamente. Sento i buoni con i vidi autocredettanti, i zanzarieri che si attaccano nella tapparella, allora sei morto. Vai Giulio. Si dice tapparetta. Io voglio alcuni correvoli. Cazzi, da come fai a aprire le persiane se sono fisse, eccetera? Ci mancherebbe. No, no, quello no. E così, Marco, qui tanto per darmi un'idea, io ho il lavoro che ho fatto il magazzino, mi sono scaricato 300 blocchetti, non uno, 300 blocchetti. Mi sono scaricato prima dal camion a terra, poi da terra me li sono portati dentro e poi me li sono ammurati tutti quanti, per dirti, no, che lavoro l'ho fatto. E faccio 76 anni, o Marco, e l'unica introduzione che ho fatto è questi due mesi e mezzo così, dopo l'intervento, eccetera, perché avevo necessità di riposare, eccetera, perché... non perché avevo io personalmente, fisicamente necessità di riposare, ma per consiglio di un po' di tutti, anche per non sforzarmi, perché dopo un intervento non è che puoi fare sforzi, ci mancherebbe altro. Però nonostante tutto andavo a fare la spesa, prendevo i pacchi dell'acqua, la confezione dell'acqua tutte le settimane, immancabilmente, e tutto messo nella spesa. Io ho fatto lo stesso, per dirti, queste cose sono cose normalissime che si fanno anche in qualsiasi famiglia, per dirti, è tutto diciamo che è salute, secondo me tutto questo è salute, anche se è fatica, perché soprattutto d'estate quando c'è molto caldo sudare sudi, ma sudare significa salute anche, o Marco, ma se tu te ne stai sempre lì buttato sul letto o sulla poltrona, allora addio Marco, riprendi. E i discorsi fatti negli anni, nei decenni, ma poi non è cambiato niente. Per esempio la bombola di gas da 10 kg la posso sollevare da terra, ma a mettermi alle spalle non esiste la bombola di gas piena, da 10 kg solo, impossibile a mettermi alle spalle, è una cosa proprio, non ci riesco. E c'era l'amico di mamma che ne ha 80 di anni, figlio, la bombola solleva, se la mette in spalla, piena. Anche quello faccio, la bombola, io vado al bombolaio, me la carico, me la porto a casa, prendo l'aria nel vuoto, lo porto al bombolaio, la stacco, poi arrivo col pieno e la piazzo, tutte queste cose che faccio io, e ci mancherebbe, e cosa fai? Tutte cose normalissime secondo me. Va bene, dai, avanti qua. No, Antonello tocca, ammazzata la zizzola. Ah, Antonello, ammazzata la zanzara. Allora, della dazza ammazzato, vai Marco. No, aspetta un attimino, cosa dazza, aspetta. Pensavo che è andato a farti una birrettina fresca, invece stai ammazzando la zanzara. È meno male che non fumo io, mi. Se avessi fumato, peggio. Poi in estate, vabbè, come ha detto Giulio, in estate, mamma mia, il caldo e sembra quasi che mi levi il fiato, capito? L'estate da quel punto di vista, infatti anche andare al mare nei giorni troppo caldi costa, con questi gradi, hai visto quando quest'estate ci sono stati roba di un mese e mezzo con 30 più gradi costanti, lì già comincia a scosciarmi andare al mare, ma infatti non ci sono andato. non ne avevo proprio nemmeno voglia. Tanto meno. Se il caldo già inizia a darti fastidio, Marco, dammi il retta. Esci da lì, da Gaza, e passeggia, esci. Se no è un casino. E giù, l'altra volta ne ha abbassato lo stesso i blocchetti, i mattoni, il cimento, il patto. Bisogna muoversi, bisogna fare, se no è un casino. Io ho un grosso problema all'ultimo anello della colonna vertebrale, che praticamente non ce n'è più, e ogni tanto mi blocco e metto la fascia, la pomatina, una bustina e gli appassa e tira a campà. E tu immaginati mia figlia o Marco, che ha 31 anni e c'ha l'artrite reumatoide, sai cosa vuol dire? Lì è dovuta andare via dal McDonald's proprio per quello, perché stava molto in cucina e a sollevare 6 ore e 40, quando non erano 7, quando non erano anche 8, a stare con la friggitrice in mano, salendo e scendendo, le patate, e hamburger, e quello, e fai, apri, tira e molla, molti pesi, non ce la faceva più, e si gonfiavano le dita, i polsi, i gomiti, arrivava a casa che era pezzo. E fortunatamente c'è stato questo cambio, dove adesso, dove lei c'è meno più lavoro per lei in cucina, sta molto in casa, sta molto al bancone, quindi sta molto meglio. Però ogni venerdì mia figlia fa la puntura alla pancia per artrite reumatoide, c'ha 31 anni, è una malattia, non si sa da chi l'ha presa, però cosa deve dire? E tu la vedi lavorando, è una goccia, una macchina da guerra, e cosa fa? Si ferma. Ma è la stessa patologia che ha la sorella di Ivan, per caso? La stessa patologia che ha? La sorella di Ivan, Simona, quella c'ha. Sì, meno avanzata rispetto a quella di Simona, ma mia figlia Simona è una botte. Mia figlia non pesa neanche 50 kg, perché ci tiene molto, fa una vita molto, molto ordinata e pulita. Ma veramente mangia cose pazzesche, molte verdure, molte non mangia grassi, non mangia carboidrati, li mangia 2 volte alla settimana, nonostante lavori in un ristorante, pizzeria, eccetera, capito? Simona è troppo grassa per conto mio per avere quella malattia, più va e peggio è, secondo me. Ilaria ancora ce l'ha in forma leggera, ma comunque deve stare molto attenta, soprattutto alla dieta, e soprattutto deve seguire la terapia che gli ha dato il medico. Ma tu hai detto non si sa da chi l'abbia presa, perché cos'è, ereditaria di solito? Può essere ereditaria. Nella mia famiglia non c'era nessuno. Ora non so, magari qualcuno che non si ricorda, ma che sappia io o mia madre, non si riesce a capire, ma anche i nonni, però può essere anche dalla parte di mia moglie, che sono tantissimi, qualcuno magari ce l'aveva e nessuno lo sapeva, non lo so. Ehi, magari non riconosciuta, boh, chi lo sa. Adesso, vabbè, i sistemi anche di diagnosi sono migliori rispetto a tanti anni fa. Ho capito, però per dirti, cioè, sono tante cose che manco te l'aspetti e arrivano, capito? E arrivano, come il diabete, a mio fratello l'ha preso a 16 anni, ne ha 60, ne fa 61 a marzo del prossimo anno, quindi, cioè, non, mio padre non era diabetico, a casa mia nessuno era diabetico, lui non si sa da chi sia arrivata questa cosa, capito? Purtroppo è così, bisogna stare molto molto attenti. Io quando vedo questo bambino, guarda, mamma mia, guarda, c'è un bambino, mi viene la disperazione, adesso sta scendendo la macchina con la mamma, avrà se no 4 anni, se ce li ha 5 anni, se li ha carrozzella. Ogni volta che lo vedo mi viene la disperazione, cazzo. Sono un bel di malattie ancora che non, non si riesce né a debellare né a prevenire. Siamo indietro ancora, figurati fa cosa sarà fra 100 anni, fra 1000, se non ci distruggiamo prima. Vai Giulio. Purtroppo ci sono sì un sacco di persone malate, ci sono centinaia di malattie, ragazzi, che ci sono quelle persone sfortunate, eppure hanno voglia di vivere, ed è giusto che sia così. Io vi auguro tutto il bene del mondo, soprattutto a queste persone così handicappate, perché si sa, tu immaginati la sofferenza di una vita intera così, vedere non solo della persona che è malata, ma anche della famiglia che purtroppo deve sopportare, ha ragion veduta la situazione, è ovvio, io cosa vuole che dica. Infatti tante volte penso, ma è possibile, noi siamo nelle mani di Dio, così si dice, e non so allora che cosa stia facendo questo Dio. Io non è che non sono né cattolico e allo stesso tempo né laico, perciò a questo punto io penso questo, se siamo veramente nelle mani di Dio, e se veramente Dio può vedere queste cose, perché non mette rimedio? Ma comunque sono frasi ormai fatte non da me, ma da milioni e milioni e milioni di persone. Purtroppo l'umanità soffre tanto. Soffrono le persone sane, figuriamoci questi malati. Avanti, Antonio, sei rientrato. I cattolici hanno la presunzione che il nostro Dio sia l'unico vero Dio, così i musulmani, così i buddisti, è tutta un'invenzione dell'uomo. Comunque, vabbè, adesso non voglio cambiare discorso, non c'entra niente con il discorso di adesso. Ciao Marco, ci devo aspettare, c'è urgenza, va. Ok, poi Giulio, scusa. Ok, ciao Mario. Ricordati che tutte le sere siamo qua sul 10, perciò vieni da questa parte, così almeno scambiamo 4 chiacchiere. Bene, c'era anche Claudio, dai. Se sei con l'ascolto puoi salutare anche Claudio, che c'è Claudio anche. Avanti, Mario, ci siamo qua? Giulio, scusa, ti stiamo ascoltando, c'è urgenza con l'avanzo. Già ci vediamo più tardi, che c'è urgenza, va, scusate, riprendi io, scusa. Ok, d'accordo, ciao Mario, a dopo allora. Avanti Claudio. Già lo sa Marino, siamo qua, già ci ha sentito altre volte. Ciao Mari, buona serata, buon tutto. Io sono già a meno un quarto, 8 meno un quarto stacco che l'ho a mangiare il cane, faccio qualche altra cosetta e poi si cena, dai. Vi saluto tutti, ciao Antonello, ciao Marco, ciao Giulio, chiunque fosse in ascolto sul canale 10 come sempre, un saluto circolare a tutti, anche a quelli che stanno ascoltando. A domani ragazzi, a domani, dai che si è fatto tardi, noi siamo già dalle 6:30 in radio con Giulio, ma anche Marco già si è entrato subito. Buon proseguo, se proseguite, e ci aggiorniamo domani. Un abbraccio a tutti, vai Antonello, se ci sei, se no riprendi tu Marco, ascolto finale e poi chiudo, dai. Ciao a tutti. Naturalmente Antonello non riprende. Ciao Claudio, sentiamo anche domani quando capita, dai, non voglio mettere limiti. Ciao Marino, ben affacciato, e vai tu Giulio, dai. Ok, ciao qua, grazie della chiacchierata, dai, ci sentiamo domani eventualmente. A te cosa faccio qua? Se domani non si fa sentire, Marco, la notte, alle 3 di notte mi faccio squillare il telefono, come facevo una volta con una certa persona, che ormai non c'è più frequenza. Bene, va così Marco. Eia, tanto mi trovi sveglio, sicuramente alle 3:30 mi trovi sveglio. Purtroppo diciamo che finché mamma andava a scuola un po' ci mettevamo degli orari tutti e due, ero più attivo già dalla mattina, fu da quando in pensione piano piano ci siamo lasciati un po' andare come orari eccetera eccetera. Oh, la parte positiva mia è che digerisco tutto a tutte le ore. Invece ogni tanto Antonello mangia cose banalissime, ma banali, e dice sono stato tutta la sera male, sono stato tutta la sera col bruciore, e allora lì c'è qualcosa che non va a livello di stomaco. Ovviamente quando è così evidentemente quello che uno assume magari non gli andava, e allora gli faceva quel piccolo difetto così, bruciore del stomaco eccetera, ma comunque c'è sempre rimedio, sono cose normali che chiunque può avere un bruciore del stomaco e non rendersene conto che magari ha mangiato qualcosa che appunto quello le faceva male. Ma io mi ricordo da giovane, da ragazzo, io mangiavo la mela e mi veniva male del stomaco, la mela. Oggi me ne posso mangiare un cesto, me ne posso mangiare di mele, non mi fa niente, per dirti no, sono momenti questi anche. Anche l'evoluzione del fisico può cambiare da un anno all'altro, capito Marco? Per cui non è detto che se c'è quel problema oggi che ci possa essere anche domani. Sì, è vero, e poi certe intolleranze in alcune persone sono sorte dopo. C'è chi non era intollerante a una cosa e lo è diventato, pensa. Quello sarebbe seccante, perché io ad esempio intollerante al lattosio o altre cose, e caspita, se divento intollerante al latte io e a tutti i derivati sarebbe un dramma, perché io vivo dei latticini, dal latte in poi è tutto buono, formaggi di tutti i tipi. Oppure intolleranza al glutine, un'altra rogna, uffa, per carità. Beh certo, i formaggi diciamo che in linea di massima piacciono un po' a tutti, però anche lì bisogna andarci piano perché ci sono molte calorie, ci sono quei formaggi eccetera, e soprattutto colesterolo eccetera. Sì, mangiare certo, ma uno non è che si può abbuffare di solo di formaggi, ci mancherebbe. Tu immagini 100 grammi di formaggi, di un formaggio duro ad esempio, che so io, tipo un parmigiano, tanto per fare un esempio, mi sembra che è roba di 1100 calorie, ti puoi immaginare, e come fai? Non è possibile nutrirsi solo esclusivamente di parmigiani, cioè di formaggi eccetera. Bisogna cambiare, ci vuole carboidrati, ci vogliono proteine, va bene il formaggio, proteine anche, per dire, ma non è che si può mangiare sempre formaggio, ci vuole la bistecca, ci vuole la fettina, ci vuole il pollo, ci vuole tutto bisogna mangiare, e soprattutto verdure, frutta, Marco. Sì, no, ma io mangio tutto. Alla faccia dei vegani, alla faccia dei fruttariani o come si chiamano, però cioè mi piacciono tutti i formaggi, tutti i latticini, gli yogurt, tutti i derivati del latte. Ho detto da latte in poi sono tutti buoni. A me quando vedo questi vegani, fruttariani, a me sembrano tutti matti, anche perché danno delle false informazioni su quello che mangiamo noi, dicono che la carne fa male. Sì, la carne fa male se mangi tutti i giorni carne, per mesi ti può venire la gotta, ma l'uomo è sempre stato onnivoro, ha mangiato sempre carne, verdure, frutta, tutto quello che trovava. Ma quelli sono andati a dire, te l'avevo già detto, sono andati a dire che l'uomo è nato che mangia solo frutta, e dice anche il leone mangia frutta. Sì, allora vorrei mettere quella persona dentro una gabbia, no? Col leone, e ci mettiamo un cesto di frutta e lui, voglio vedere cosa rimane dopo, a chi si mangia il leone, se la frutta o il cristiano. si mangerebbe la persona, già lo credo. Non c'è altra cosa. Il leone perché magari alle volte non riesce a cacciare, che poi caccia sempre, il leone selvaggia, la guglia, è capace di cacciare un elefante, ti puoi immaginare, e caspita, più carnivo di quello lo vuoi, è l'animale. E non solo leone, tanti animali, ma anche un semplice cinghiale, anche quello grasso, se non ha da mangiare ci mangia l'uomo, va a manifestare, anche il cane per dire, noi lo sappiamo, gli animali quando sentono odore di sangue, guai, poi non parliamo degli squali, che se uno poco poco è ferito in acqua, sente l'odore del sangue, a miglia di distanza e viene e ti sbrava, lo sappiamo queste cose, da quando mondo è mondo la carne ha sempre fatto gola a qualsiasi esistenza sia umana che animale, per cui non capisco cosa possano avere in mente questa gente. Ormai è diventata una moda, ecco quel discorso, è diventata una moda questo fatto di essere vegani eccetera, ma poi sono anche loro un pochino da contraddire, perché se tu sei vegano non mangi carne, però magari ti mangi il formaggio o ti mangi il latte per dire, o mangi le uova, che senso avrebbe, non riesco a capire, cosa fai, mangi solo muschio? No, non credo, o Marco. Hey. Poi ho visto un video l'altro giorno, l'ennesimo video, genitori vegani, un figlio adolescente vegano e un figlio piccolo sui 5 anni o poco più, e l'hanno allevato da vegani. E, non lo so, il bambino sembra ben formato, quello che vuoi, però dubito che... Non lo so, mi puzza molto se una dieta vegana possa far crescere soprattutto un neonato che ha bisogno di latte, che sia latte della madre, che sia latte sostitutivo, fare una cosa molto lonfia. E poi hanno detto che loro il figlio non lo vogliono vaccinare, che secondo loro non è democratico vaccinarlo. E quando il presentatore gli ha detto ma quei bambini che muoiono di malattie che si potevano evitare col vaccino, lui dice cosa ne pensate? E quello vuol dire che era il destino, io credo nel destino, capito? Una per molto meno ha perso i figli e gliel'hanno tolti perché era una mancanza, si beveva la propria urina, dice che era per depurarsi, quando sappiamo che l'urina è un prodotto di scarto. Capito, non vaccinano il figlio, dice, ma e se non lo vaccinate a scuola non lo fanno accedere alla scuola dell'obbligo. E dice, non c'è problema, gli facciamo la scuola a casa. E poi il padre va alla terza media, capirai cosa tutto gli potrà insegnare. Non per dire, perché terza media che ha fatto nonno era come quasi una laurea di adesso, ma la terza media attuale sono genitori giovani. Capito? E poi questa storia del destino, cioè era destino che morisse un bambino, no? Quando si poteva evitare col vaccino dell'antipolio, per esempio, io mi ricordo che ai miei tempi erano d'ufficio i vaccini, non è che ti rifiutavano, erano d'ufficio, o li fai, e loro sono tutti controcorrente, sono attivisti, vanno a rompere le scatole ai cacciatori quando cacciano, lo sai, lì si buttano addosso, li urlano in faccia, a seconda di come va si pigliano una fucilata un giorno. Vabbè, peggio per loro. Oggi la vita è travolta proprio da queste mentalità così contorte, perché per conto mio sono mentalità contorte quelle, ma io mi ricordo io a scuola i vaccini li avevo fatti, e non è che ti chiedevano permesso, non venivano, te li facevano e basta, e ci volevano, e dunque non capisco per quale motivo oggi certi genitori non vogliono fare i vaccini. I vaccini sono stati studiati per anni e anni e hanno fatto degli esperimenti, e evidentemente se li fanno non è che li fanno per ammazzare la gente, li fanno perché è necessario farlo, per eventuali malattie, eccetera. Certo, ma è così. Prendi ad esempio il fatto del vaccino dell'antipolio. Prima cosa succedeva? Che tanti bambini prendevano la poliomielite proprio perché non avevano fatto il vaccino. Beh, io cosa vuoi che ti dica? Io purtroppo ho un cognato così, era, era nato sano, tranquillo, e poi da bambino piccolino si era ammalato e purtroppo aveva la gamba e non la può usare. Cioè, cammina lo stesso, però si sa come cammina uno, una persona così. E dunque, cosa dirti? Rischiare questo. Se i vaccini li fanno è perché hanno fatto degli studi ben approfonditi e evidentemente è necessario farli. Poi, ripeto, può anche capitare che uno, che una persona si può ammalare lo stesso, e non, questo è fuori discussione, ma però in linea di massima è una cosa che si deve fare, perché bisogna farla. E loro parlano tanto di libertà, di diritto di decidere, poi però per altre cose sono degli estremisti. Mi hanno fatto vedere il kit da attivista, no? Già attivista, già lo sai cosa vuol dire, sinistroide, quelli che vanno poi a spaccare tutte le manifestazioni, no? Detto tra noi. Allora, il kit da attivista, avevano delle radio PMR. Sicuramente non pagheranno la tassa, perché so come la pensano quelli di sinistra, capito? Gli ho anche scritto, sicuramente non vi sentirete in dovere neanche di pagare il contributo annuale per le radio. Poi il passamontagna usavano, ha fatto vedere il passamontagna, delle tronchesi per rompere il filo spinato oppure le reti metalliche di certe protezioni, no? Io gli ho scritto, quindi voi andate a fare azioni col volto travisato, già quello illegale, con strumenti da scasso. Poi ho detto, se minimo siete in tre è già associazione per delinquere. Ho detto, prossimo passo che farete quale sarà? Black block, no? A distruggere i beni altrui, roba del genere gli ho scritto. Sì, a questo punto questa gente, cosa vuoi che ti dica? Ripeto, è da un po' di anni a questa parte che la vita è cambiata, ma è cambiata non per tutti, ma la maggior parte delle persone sono sempre dell'idea che la vita è quella tradizionale di sempre, mentre invece oggi sono sotto certe idee così contorte di persone che, per conto mio, quelli avrebbero avuto bisogno veramente del vaccino per non fargli venire in mente queste idee strane che hanno, come ad esempio ce l'hanno i vegani, come ce ne hanno certe persone che fanno delle cose assurde, e gente tipo che so io, quelli dell'ISIS, tanto per fare tutte queste cose qua, non capisco perché. Prima io da giovane, da ragazzo, di queste cose non ne sentivo mai, eppure una certa età ce l'ho oggi, ma questo lo sento in questi ultimi anni, tutte queste cose che vengono riscontrate e sentite negli ultimi anni. Non certo 50 anni fa, ma 50 anni fa si andava col pantalone da troppati e magari passati dal figlio più grande al figlio più piccolo poi, perché magari nel frattempo quello la cresceva e non gli stava più, e allora non era ancora consumato, e se era consumato si dava una giustatina, era troppo, e questo e quest'altro, e si faceva indossare al fratellino più piccolo. E tutte queste cose, oggi la vita è completamente cambiata, ma è cambiata solamente per certe mentalità, però sono mentalità, secondo me, contorte. Io diciamo, tu mi dirai, ma il benessere, la vita, certo, il benessere va bene, non ci sono dubbi, però lo spreco bisogna anche considerarlo, tenerlo in considerazione. Tu mi dirai, ma oggi si può comprare il pantalone anche all'altro figlio, certo che si può comprare, però oggi si esagera, non è che si compra solo un pantalone o un paio di scarpe nuove, oggi si compra i motorini, si comprano i telefonini, i computer e tutte queste cose qua, addirittura la macchina, eccetera eccetera. Questa è tutta una diseducazione per conto mio, o Marco. Senza contare che adesso i ragazzini escono, cioè comprano roba firmata, tutte queste marche, e poi ci hanno già con le pezze al culo, mi ha detto tra noi, i pantaloni già strappati di serie, con gli squarci che si vede tutto il ginocchio. Ma io mai mi sono sognato di andare in giro così, con le pezze al culo proprio. Assolutamente. E poi sapete che il nonno mi ha fatto da padre, lui era l'antica, capito? Della serie le donne portano la gonna, gli uomini i pantaloni. Quindi niente orecchini, niente tatuaggi come che siamo tanti galeotti adesso. Vabbè, un tatuaggio, un tatuaggino ci può stare bene, ma quando vedi quel corona o questo mister signorino, ma l'hai visto come è conciato? Mister signorino, se io fossi tornato a casa così mi avrebbero cacciato di casa all'epoca. Vestiti da negro. Purtroppo lui dice che cosa si vuole fare. Allora, già padre, si è rientrato, la zanzara ha ucciso. No, sono andato a Giovanna, sono andato a aprire e stavo parlando insieme a lei. Brava, ma poi ti mando la foto di Valentina su WhatsApp, così la vedi. Vabbè, purché che sia col suo consenso, naturalmente. E vabbè, capito Giulio, cioè oltre che si vestono tutti stracciati, è roba che costa pure. Non è un normale jeans come potevi prendere in Piazza Tola o anche da Ossano, un jeans anonimo. Sono tutte marche firmate, spendi un bel soldi per poi essere uno straccione. E poi sai da dove l'hanno copiato Giulio questa mania di uscire con i pantaloni mezzi scesi che si vedono le mutande? Dalle gang di criminali americani, sai quelle bande di negri, di latini, no? Quelli tutti armati che spacciano droga in America, l'hanno copiato da quello. E c'hanno il cavallo dei pantaloni che gli arriva al ginocchio, e c'hanno le mutande a mezzo fuori, ma se l'avessi fatto io lo sai dove ci uscivo? quelli al bronzo, sì, io lo so, sì. Sì, per carità, una zamona, io quando mi vedo quelli con i pantaloni che col cavallo basso, ma questo qui cosa ha fatto? Si è sporcato addosso, è il peso gli fa abbassare i pantaloni fino alle ginocchia, il cavallo fino alle ginocchia, non è possibile, sono fatto di metterci questi pantaloni tracciati, ma quando hai? Uno si compra pantaloni buoni, come è poi l'Italia al proposito, perché se vuoi comprarli già stracciati costano molto di più, costano. Poi questa idea cretina che hanno in mente, gli indumenti firmati, ma cosa vuol dire? Ma me la gente è pazza, ma la gente è impazzita, brutta. Ripeto, questo soprattutto per i ragazzi, non bisogna abituarli in quel modo, perché poi sarà sempre peggio, quindi un domani non riusciranno a difendersi, perché anche se guadagnassero bene, spenderebbero tanti di quei soldi che non batterebbero per sopravvivere. Perché certi genitori per me hanno proprio la mente baccata, non è possibile assolutamente, o Marco, che si possano fare certe cose. Comunque, facciano come credono. Avanti, Antonio. Di tutto di più si vede in questo periodo, per carità. Purtroppo è così, non ne vuoi fare. La gente ormai è allo specchio. Poi io ho visto una cosa, ad esempio, io mi ricordo tanti anni fa, su a Montalosero c'era San Camillo numero 2, era una palazzina. Questa proprio perché c'erano per il centro bagno, ci sono state le persone ammalate di San Camillo, eccetera, no? Praticamente era un ufficio di ospedale, anche quello. Era una succursale di San Camillo. Beh, avevano chiuso San Camillo, no? Con Marco. E avevano subito occupato i disperati, quindi senza casa, la gente povera, la gente che non aveva un reddito, gente che non aveva un granché di guadagno. Beh, avevano occupato questa casa, Marco, poi giù in strada, parcheggiato c'erano macchine da 40.000 euro, moto da 25.000 euro parcheggiate, ma dico io, se tu non hai soldi per pagarti un affitto, e sei stato costretto a occupare questo palazzo, questa casa qua, o questi ambulatori o cosa erano, mi puoi spiegare come hai fatto a comprare una macchina da 40.000 euro o una moto da 25.000 euro, Marco? Per dirti no, la gente è così, mi. E lo stesso stesso coso vale ancora oggi. Tu vedi tante case popolari, gente che paga magari 30 euro di affitto perché ha la casa popolare, però la macchina da 40.000 euro, o Marco, ma queste cosa sono? Questa è gente pazza, non è gente sana di mente, per conto mio. Perché di questi tempi apparire vale di più, devi apparire, capito, se non sei... Ma poi c'è gente anche se si indebita, mi pur di farsi vedere con una macchina sportiva, con un macchinone, si indebita. E magari poi non riesce nemmeno a, come dire, a pagare il debito. Perché tra l'altro apparire di quest'epoca è più che... sembra un coso principale, una priorità sembra, capito? Lo so, questo senz'altro. Apparire è un conto, ma poi vivere in maniera decorosa è un altro, perché tu non puoi andare alla Caritas a chiedere il pacco della pasta per poter mangiare e poi però vai con la pelliccia. Ci sono anche queste, tu guarda, nota bene quando fanno lì la fila per prendersi il pacco dei viveri lì alla di caserma, là, diciamo, della polizia, e tu vedi gente che è con la pelliccia, oppure gente che passa con la macchina, prima passa e poi magari fa il furbo e viene a piedi, però prima è passato con una macchina da 40.000 euro, ma quando mai? No, non può essere così, dai, non può essere. È pazzesco, guarda, la mentalità della gente è una cosa incredibile come si comporta oggi, guarda. È tutto da pazzi, cose dell'altro mondo. Purtroppo è così, e lo si vuole fare. È come qualcuno che conosco, che conoscevo per fortuna, che praticamente in famiglia, pur di farci vedere, si erano pigliati la Maserati, no? Peraltro modello usato, vecchio, modello usato. E poi non lo usavano quasi mai perché i costi della benzina erano proibitivi, perché faceva 4 km al litro, capito? La lasciavano sempre in garage. La usavano la domenica per farci vedere, sai, in Piazza Italia, in via Roma. Ma vai, è una presa per il sedere quella proprio. Beh certo, cose dell'altro mondo, cose pazzesche. Ma comunque, vabbè, dai, sono già le 8:12, per cui te devo lasciare, Marco. A domani, dai, fate sentire però, non statene così nascosto, per così dire. Casomai nasconditi dietro il microfono, questo va bene così, così almeno puoi parlare, ma non nascosto a letto. Lascialo prendere il computer, lo fai in altri momenti, magari la mattina, quando non c'è nessuno al baracchino, o dopo che ti hai fatto la passeggiata, puoi anche guardarti il giornale, al computer, queste cose qua, così anche per usare anche quello, e va bene. Ti devo lasciare, là, devo scendere per cenare, io Marco. Grazie per la chiacchierata. Io stasera ti ho svegliato, forse non hai gradito la telefonata, per cui se per quello ti chiedo scusa, però mi sei considerato che in frequenza non stai rientrando, allora ho voluto esci a vedere che ero sveglio. Anche perché avevamo chiamato al baracchino, ma tu non avevi risposto, per cui allora ti ho fatto squillare il telefono e te la faccio squillare di nuovo se non ti presenti lì, cosa ti credi? Non una volta, ma anche 10 volte. Va bene, ciao Marco, a domani, dai, aspetto il finalino, poi chiudo anch'io, dai, che già ora di andare a cenare. Ehi, sì, ero sveglio, avevamo fatto, vabbè, prima eravamo andati presto a fare un po' di spesuccia da Lidl, ma stavo leggendo prima, poi è arrivato il pranzo e in quel momento hai telefonato tu, e quindi ho finito di pranzare e poi sono entrato, appena ho sceso, giusto un minuto e ho fatto la battuta, dai. Ok. Va bene, d'accordo, va, a domani allora, va. Ci sentiamo. Ciao Marco, a domani. Grazie ancora per la chiacchierata. Salutami tua madre. Ciao Marco. Ciao, buona cena, stavo per dirti buon pranzo, mi ho abituato ai miei orari. Dai, buona cena, buon tutto, ci sentiamo anche domani, dai. Adesso quello che non ho fatto in 2 ore lo dovrò fare dopo al computer e quindi andrò a letto tardi e vedi che è tutto concatenato. Antonio, vai per i saluti. Sì, ciao Giulio, ci sentiamo, buon correttivo, buona cena e buonanotte, buon tutto. Allora Marco, guardato vai la foto. Scusa un attimo Marco, che saluto Antonello, ciao Antonello, ci sentiamo, fatti sentire anche tu Antonello, a sera già ci siamo, no, non dico magari alle 4, lo so che quell'ora non entra nessuno, ma almeno 5 e mezzo sì, va bene, dai. Ciao Antonello, ciao Marco di nuovo, chiudo. Già mi faccio sentire, non ti preoccupare. Ciao, ci sentiamo domani, ciao ciao. Avanti Marco. Ciao Giulio, ciao. Ciao Claudio, a domani, ciao. Ciao Claudio, sicuramente sarai per mangiare anche tu, dai. Dai, appena, quando posso entrerò, dai. È un po' un periodo di apatia, qualche battibecco qui in casa, ma niente di grave, dai. Fate la passeggiata, guarda. Ce l'ho là, ce l'ho nell'altra camera, Antonè. Peraltro la batteria sta durando poco e caspita, e non lo so se dopo Natale riuscirò a prendermelo sto smartphone, e lì sta dando problemi di carica, sta durando anche meno la batteria, e d'altronde c'ha 4 anni, tre anni c'ha, però dopo 3 anni, a parte che era un modello già base economico, quindi dopo 3 anni è più che superato, capito? Non ti basta più la memoria, non... purtroppo sono troppo innovativi per gli smartphone, ogni 2 mesi ne sta uscendo uno, ogni mese quasi ne esce un modello nuovo. Guarda che c'è da, l'ho visto oggi alla... ovviamente l'ho visto, 129 euro c'è il K4 del LG, quello che ho io, e 99 euro l'ho visto qua su al quadrato l'LG K8. Basta che te lo guardi su internet, magari lo paghi anche di meno, mi interessa, te lo ordini, è bello, veramente bello, è un buon telefono, costa anche poco, 99 euro il K8 va bene, c'è anche addirittura anche il K10. Sì, ma quei prezzi sono modelli base, super base, a me serve un classe media che mi duri altri 3 anni, capito? Che mi faccia almeno 3 anni, altri 3 anni, e quindi intorno ai 200-250 devo andare. Io c'ho il Samsung qua, ma non serve a un cazzo, perché la batteria è... Non dura manco un giorno, Simona, figurati, e c'hai anche 2 mesi di vita il Samsung, quello che ho comprato. Quindi il Samsung proprio non serve a niente, mai ne ho comprato. Invece quello che c'è oggi, la batteria dura la bellezza di 2 o 3 giorni acceso, dura parecchio. Vabbè, ma quello sta a voi. C'ha 2 anni di garanzia, se la batteria è difettosa lo date all'assistenza ufficiale e ve la cambia in garanzia, se poi voi non lo fate il problema è vostro. Bravissimo, allora il cinese costa 5 euro la batteria del Samsung, già lo sai, questo è il cinese. Sì, ma ce lo fa un centro non autorizzato, come apre il telefono vi decade la garanzia. E se c'è un problema più grave ce lo buttate direttamente. No. Non esiste, Antonio. Io se compro un telefono di qualsiasi marca sia, anche Huawei, c'è il centro Huawei qua, c'è a Sassari. Così come c'è degli Xiaomi. Se la batteria è effettuosa vado esclusivamente al centro assistenza e non la paghi la batteria. Se c'è un qualsiasi problema vado in garanzia, non vado dai cinesi. Che senso ha andare ai cinesi e comprarsi la batteria quando te la cambiano gratis al centro assistenza Samsung? Vabbè, non me la fotti nulla, capito? Allora, te la cinesi la piglia nuova, tanto per quello che usa il telefono, più dato cosa mio nipote, si guarda i videogiochi, capito? E quindi quando sta roba di un'ora e mezzo con i videogiochi può fare la sigaretta la batteria, è inutile stare così. Se no dovevamo prima, capito? Solo che mio nipote ci ha messo i videogiochi e si è scaricato in quel telefonino lì, e quindi quando viene qui per tenerlo calmo si prende il telefonino e si gioca con i videogiochi. Il mio già non lo usa, se lo busca già lo sa. Capito? Vabbè, però è troppo comodo andare dalla zia o quello che è e installare i giochi sul cellulare e incasinarglielo, e incasinargli la durata della batteria. Troppo comodo. Poi io, come hai detto tu, cosa mi nafutti? Allora, se non te ne frega niente di mettergli a posto la batteria, è un altro conto quello, è un altro conto. C'è la piglia da cosa ricesa, la batteria già va bene così. Tanto se lo vuole comprare nuovo ci vuole avere Simona, capito? In seguito. Se vuole comprare come il mio, per 99 euro che costa, è anche semplice da usare, perché il Samsung è un casino a usarlo. Capito? A volte è stata la chiamata anche da sola, è un telefono ormai tutto da quando è nato. Se lo metti in tasca, piglia e andata da sola. Ma vabbè. Quello vero, il mio è abbastanza semplice e ho già visto a cosa vado incontro prendendoli quelli moderni, c'hanno un bel di menate in più, tutta roba che non uso io. Beh, è bastato vedere con la mia zia che ti mette foto a tutto schermo quando vai a attivare, tutta roba da disattivare subito perché ti appesantisce il sistema. E così era con XP, che c'erano tutti gli effetti speciali, finestra in trasparenza, l'ombra del mouse, tutte menate che ti mangiano memoria. Io tutte tolte, ho detto massimizza per le prestazioni, senza cose, effetti a scomparsa, quelle fesserie. Io le considero fesserie, io sono molto spartano per quanto riguarda i computer. Ah beh, per computer, ma cosa sto usando io? Ce l'ho qua, quello piccolino, e non lo sto neanche usando. Cioè, quello del fratello ancora è in laboratorio, mi aveva a ritirarlo, intanto non si può manco mettere a posto. E quindi lo ritiro, glielo ritorno. Ce l'ho comprato nuovo, appena scegliano l'accompagnamento, dato che viene intorno ai 300 euro un computer. Il modello base sempre, cioè è come dicevo io, se voglio un computer che sia ancora aggiornabile, un po' di sistema operativo, deve essere una cosa un po' performante. E così lo smartphone, se lo prendo già modello base, che a malapena riesce a navigare appena nuovo, a fare le cose normali appena nuovo, è finito il discorso. È come che mi tenessi il mio, quello che ho già. Vabbè, tu lo vuoi in modo che ci abbia un bel po' di memoria, roba del genere, lo vuoi modificare, già ti ho capito già. No, io non sono di quelli, a me basta una cosa semplice da usare, basta che telefono, poi per il resto non me la futti nulla. Basta che telefono, allora per telefonare ti prendi quelli a tasti, un cellulare vecchio stampo a tasti, ecco il telefono. Ehi, no, sai cos'è? Quando tu prendi un computer portatile, faccio l'esempio del computer portatile, con un sistema operativo, no? Te lo tieni vari anni, poi magari vuoi cambiare il sistema operativo e già cominci a vedere che la RAM già non ti basta o ti basta malapena. Cominci a vedere che l'hard disk già li fanno capienti, quello no. Magari la scheda video vedi che non è abbastanza performante per il nuovo sistema operativo. È una seccatura, invece se già te lo prendi bello potente all'inizio, magari si può aggiornare, dico a livello di sistema operativo, Quello sì, ma io dico la roba lì proprio, guarda, tu sei appassionato, quindi figurati, io ho un occhio a lunga, quello già si può aggiornare, da Windows 8 si può mettere Windows 10, però no, l'ho lasciato così com'era, non ho neanche toccato, non me ne frega niente. Quando finora sta funzionando benissimo. L'unica cosa che faccio intanto sono gli aggiornamenti di ciò che ci ho messo e basta, tutto lì. E me le chiede lui a volte. Io non posso mettere molti programmi perché non me li prende, mi dice spazio insufficiente. Magari lo spazio c'è, però mi dice che è insufficiente. Ho provato a fare tutti i metodi indicati, ma non va. Più di tanto non puoi cancellare lì. Vabbè, si vedrà. Se ne vale la pena lo prendo sto smartphone nuovo, se no pazienza. Mi ha detto un vecchio cellulare a tasti. Tanto chi mi deve contattare per motivi urgenti c'ha il numero del cellulare. Dovrebbe valere quello. Poi vabbè, WhatsApp serve un po' per le fesserie, mandare foto, cose non necessarie, non proprio necessarie. Un po' così, secondario. Io lo so. Vabbè, adesso poi fra poco secondo quelli di ultima generazione, non ti critico per aspettarmi. Capito? Quindi aspetta un annetto, ti prendi quello l'ultimo moda che esce. Ed è molto meglio, ci sta più roba, fa più molto, tutta un tipo computer funziona, quindi sei più tranquillo. Quindi aspetta almeno fino alla fine del 2019. Capito? Poi adesso fra poco eliminano anche i telefoni fissi, quindi a telefonare più quando il telefono fisso non vale più, quindi bisogna solito forse o il telefonino o il computer. Ti fai la videochiamata e è la stessa identica cosa. Vabbè, ma io non posso stare fino al 2019, fino a me serve prima che si sfasci questo. Poi anche se si sfascia, pazienza, c'ho il cellulare a tasti, se devo chiamare chiamo da lì, non cambia nulla alla fine. Sono tutte le altre cose annesse e connesse, capito? YouTube, navigare su internet, quelle che contraddistinguono lo smartphone rispetto al cellulare a tasti. Io lo so, anche lo schermo grande è bellino, cioè per YouTube va bene, l'aggancio per poter agganciare direttamente al televisorino e ci sono tante cose, ci sono quello che trasferire il segnale dal telefonino direttamente al televisore via wifi, si possono fare un sacco di cose, dipende solo da quanto spendi, tutto lì. Poi vabbè, ci sono quelli che spendono 1000 euro o 1200 euro per uno smartphone. Vabbè, magari fanno lo stesso discorso che faccio io, lo prendiamo super potente così lo possiamo aggiornare a vari sistemi operativi negli anni. Però, caspita, 1200 euro, ce ne sono anche da 1200 euro, di smartphone enormi poi appena usciti che sembrano più che smartphone, sembrano tablet. Sì, li ho visti, cabine telefoniche sembrano, dopo non mi neanche mettere in tasca che sotto le mani interne, ce lo fai la fase, ce lo c'è cabine interne, ce l'ho più il vetro, cosa vedo? Io non spendo soldi così, c'è gente che si diverte, a meno che non te ne vai a Dubai a cosa. Lì usano i telefoni d'oro, fuori e dentro. Oppure c'è gente che ogni 3 mesi cambia il telefono, lo sai. E loro dicono, ma se abbiamo la possibilità economica di farlo, vabbè. Esce, piglia uno smartphone, no, classe media, poi esce dopo 3 mesi un altro e lo cambiano, capito? Ne prendono un altro, lo cambiano, ma a me sembra una moda quello mi. Per avere il telefono figo appena uscito, come fanno quelli dell'Apple, che si mettono i debiti per comprarsi un iPhone X, 1000 euro lì, o quanto costano? Quella macchina in testa, come quello che si compra la macchina, ogni 3 mesi si chiama la macchina. Capito tu, c'erano debiti che non serve che si devono vendere l'appartamento, qui sono proprio macchine, capito che c'è un sacco di gente che fa così, si prende la macchina, dopo un anno la cambia, poi se ne prende un'altra, si mette in pratica debiti su debiti, alla fine poi non ce la fa più a pagare e gliela sequestra, se attacca culo, se attacca. Ehi, bisogna fare spese adeguate al budget. Pensa che io ho il computer portatile, è vecchio e non me lo posso cambiare. Il computer fisso lo stesso, è vecchio ancora con XP, non me lo posso cambiare. Capito, se avessi potuto farlo l'avrei preso uno più aggiornato, più moderno. E comunque quando cambia il sistema operativo anche lì devi di nuovo vedere tutte le impostazioni come sono, mamma mia. L'altro giorno mi hanno fatto vedere un Windows 10 e mi hanno detto c'ha questo problema, e cosa ne so io? Io sono rimasto XP, cosa vuoi che ne sappia di Windows 10, com'è le impostazioni? Portalo al tecnico, è allucinante. Windows 10 è un casino, mi ha fatto già Windows l'ultimo uscito nel computer, si è sbagliato poco a poco, andava da una parte all'altra, non si capiva più niente, capito? Ci veniva anche l'ansia addirittura, perché dice ho già toccato un tasto, non so dove, gli ho già rovinato tutto, boh. Allora la pigliava, lo portava da noi col suo, e lui non sapeva neanche usare il fratello, capito? E non casinava, la seconda volta l'ho provato quando c'era quello del macchino qua sotto, allora prendeva, glielo riformattava lui. È così, un casino così, capito? Se uno lo so usare, come bisogna che faccia un po' di cose, si prende un libro e se lo legge bene, in modo da poter utilizzare il computer come si deve. No, a comprarsi una cosa così e poi si incasina, capito? Poi vabbè, loro hanno questo Windows 10, mia zia, l'altra mia zia. Però non, cioè accendono e cliccano e navigano, ma non sanno nulla, impostazioni di sicurezza, impostazioni, poi magari mettono l'antivirus e non lo aggiornano mai, capito? Lo scaricano l'antivirus, lo provano una volta e poi non lo aggiornano mai, a meno che non si aggiorni da solo, non fanno scansioni preventive, non fanno nulla, capito? Poi c'hanno un problema e vengono da me. Cosa vuoi ti voti? Portalo, era un Acer, portalo all'Acer e vedi cosa ti dicono. Io non ho la scienza infusa come credono loro, solo perché sapevo un po' usare XP all'epoca. Io mi sono perso Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Cosa vuoi che ne sappia? Non so nemmeno come è formattato l'hard disk di Windows 10, ci avrà una formattazione diversa immagino. Sì, io ho Windows 7 nel mio, figurati. Invece con XP funzionava tutto, ci mettevi quelle ricevitoline di quella villa TV, tranquillo, capito? Eia. Vabbè. Caro Pomponio, io quasi quasi smonto le tende. Ok? Poi sentiremo. Certo, sto entrando poco anche perché così sono molto. Sto diventando proprio sedentario. Poi, vabbè, qualche battibecco leggero qua, niente di grave però, ordinaria amministrazione. Quindi quello ho capito sempre, non preoccuparti. Già si ricalmate, quindi non c'è problema. Va bene, dai, ci sentiamo domani, allora, buon quesiti, buon tutto, e buona cena quando la farai. Quando la farò la cena? Non prima delle 11, come sempre. Le brutte abitudini sono dure a togliersi, come chi fuma. Tu gli dici non fumare, ne va della tua salute, eppure la persona continua a fumare. C'è niente da fare. Capito? Ti puoi sgolare quanto vuoi e continueranno sempre a fumare. E vabbè. E io ho le mie cattive abitudini purtroppo, mi verrà in salita un po' cercare di allontanarle. E va bene. Sì, piano piano già ti cambi un po' di cose, non ti preoccupare. Tutto sta avendo un po' di volontà, poi già cambia. Volontà fino a un certo punto, va bene. Va bene Antone, da salute in famiglia, mi sto anche facendo la pipì addosso, devo andare in bagno, ciao, ci sentiamo appena possibile, guarda che stiamo entrando qua, ogni tanto vado al 23, oggi ogni tanto andavo al 23, muto, silenzio totale. Buh. Sì, vabbè, ai giorni c'è più gente, ai giorni non c'è nessuno, anche qua, per dire, quindi, vabbè, non ti preoccupare, già sento, già entro qua, come faccio di solito, se no già c'è il PMR nel caso dove sei, cioè magari fuori casa, basta chiamarmi lì, già ti rispondo, tanto quello porto sempre appresso, quello piccolino. Sì, già. E anche PMR, tanti soldi buttati, ma no, non c'entra che siano digitali o no, anche quelli analogici, belle spese fatte per lasciarli nell'armadio a vita, poi e se vuoi a venderti danno 2 lire, è un insulto anche venderli. Lo so, da cosa ci sono da fusare i Polmar, PMR 446, ho visto. Sì, Fusaro tratta quella marca, Polmar. Il Polmarese è un buon PMR, però poi quando ne hai uno li hai tutti, mi, alla fine. Quando ne hai uno che piace a te è come averli tutti, cambia l'estetica, ma alla fine i canali sono sempre quelli, è come i baracchini. Lo puoi prendere anche placcato d'oro o dorato, sempre 40 canali c'hai, legali. Sì, ho usato placcato d'oro, sei tranquillo, chiamala come cosa è fatto bene. fossi stato un emirato, negli emirati arabi, tutto d'oro, anche televisore l'aveva tutto. Ma quelli sono dei caffoni, rubinetti d'oro, mi pare, se ti fidi c'hanno pure la carta igienica d'oro, in foglina d'oro, quelli ostentano in un modo schifoso anche, ricordati c'è anche il buon gusto, uno può essere ricco sfondato ma avere buon gusto, quelli non ne hanno, capito? Quelli sono degli, vabbè, di pascola capre arricchiti solo perché c'è il petrolio, mi. E l'unica cosa di brutto che c'è, che trattano le donne, capito, comandano loro, le donne le trattano male, capito? Infatti un sacco di gente sta cambiando idea, adesso prima si andava lì a Dubai perché stava bene, adesso c'hanno paura perché lì sono musulmani, non puoi neanche bere, vivono lì sempre perché ti staccavano la testa. Se combini qualche cosa ti mettono in piazza, te ne tagliano la testa e immediatamente non gliene fotte nulla. Lì sono, vabbè, Dubai ancora, però mio cugino è dovuto andare via da Dubai proprio perché l'ISIS, per questi fanatici, anche lì c'erano gruppi di persone fuori di testa che stavano cominciando ad andare contro gli occidentali, capito? Non importa che fosse americano o italiano, contro gli occidentali, se non è musulmano, insomma, visto che si stava mettendo un po' male, ha preferito andare via da lì e lavorare da un altro posto, in un altro posto. Sono paesi strani, insomma, per carità, guarda. Vabbè. Antone, dai, ci sentiamo alle prossime. Via, ok, ciao, alle prossime ci sentiamo. Ciao.